trasmetto c'è la sua taratura, mi dire che tu provalo col chemotus, fai la regolazione col chemotus, se ti batti nel chemotus sono uguali a quelli che ti aveva trasmetto, se ti aveva uguali c'è poco da sbagliare, ma se perlomeno poi gli attacchi questi apparecchi che sono adesso ti conto che batte, vuol dire che se mi batti giusto che va l'apparecchio, c'è poco da sbagliare mentre. Incrociati mi varia il watt della radio, non sto provando il coso, l'87 con microfono normale e ula che strano questo. Aspetta, prendo l'altro strumento, che ne ho due raga incrociati, sono tutti e due gemelli, vediamo se l'altro varia. Sono tanto, fai con la prova, te la conti subito che differenza c'è. Cioè, attacchi il coso, il 140, non so, il 440, e controlli il watt dell'apparecchio con il watt del Rosmet. Se coincido il Rosmet non c'ha niente, vuol dire che l'apparecchio che ti dà quei watt, ti dà quelli ma non te ne dà di più, hai capito? Adesso infatti dopo vediamo un po' com'è la situazione. Te ne accorgi subito, non ti preoccupare, dai, la vita è una bellissima, te ne accorgi subito, se c'è differenza, capito? Sai quanto c'è di sgarro, sarà di 2 watt, 3 watt, chi su chi è? E aspetta che prendo l'altro strumento a vedere, là. Dammi 2 minuti. E prova, già sono qua. Quanto è la ventina? Quanto è la? 18 ora. Ho quasi 20. Era stata cosa mia, precisa. Mi ha dato 230, segna di più. Perfetto, quello strumento. Finali, c'è poco da sbagliare, sono 2.19.69, e invece il mio ho preso, gli ho messo il posto 19.69, gli ho messo il 23.14, capito? E infatti se non ti c'è più audio di potenza, capito? Gliel'ho cambiato io per quello, gliel'ho tolto uno da questa 87 e l'ho messo al 2009, il 19.69. Capito? Staccato dall'87 l'ho messo nel connesso 4000, perché in pratica quest'anno l'87 me l'aveva dato Franco, California, hai capito? E io piano piano l'ho riparato. Già mi ricordo che ce l'aveva Franco, già me lo ricordo. Va bene, va bene. Problema. E così è, niente da fare, va bene, va. Ottimo per la truppa. Andare. Va bene, sì, a voi va bene. Più o riservato, ti compri la schedina, non ci vuole niente, la prendo dalla scheda, te la fai arrivare, ce l'avevo io, hai capito, c'era l'alimentazione, invece uscita, non facevi altro che collegarla dentro, dentro l'apparato, gli mettevi un dissipatore, hai capito, con una ventolina esterna e avete avuto 50-60 watt, ma cosa ne va? Non ne va nulla, a un certo punto non te ne fai niente. Non ci serve più male fotarsi di prima, hai capito? Per quello ti vedi, quindi vi puoi 31, ti agganci tutti i giorni fisso e c'hai quelle 60-70 watt d'uscita, sei tranquillo. Tanto c'è l'aria, lo sai, c'è la resistenza all'ingresso, se puoi fare 5, 15 o 20, che ti muovi vuoi tu. Se lo puoi regolare tranquillamente dall'uscita dell'apparecchio e c'hai 70-80 watt fisso ogni anno, non è che sia quello il problema. Ah, per che cosa? Per lineare? Ah, già me la frutti. Problemi in lineare? Boh. C'ho il 747, non lo nuovo, c'ho il quello della CTL 300 watt. Ne ho lineari da agganciare, ma non devo agganciare niente. Questo c'ha 20 watt è normale, quando aggancio ne ha quasi 50. Nel senso quando tiro su la levetta Coltel, ecco. Quindi cosa me ne ha fatti, non basta, poi con chi devi parlare, mi devi arrivare, 20 watt sono più che sufficienti. 18, 20 watt, dai. Sì, da quei watt lì, si può ancora sbagliare. Se avessi avuto un finale solo, ne avresti avuto massimo 15, non di più. Siccome il finale 1969 e 2 accoppiate assieme in parallelo, quindi c'hai il pilota che è 2166, per forza quei watt ti deve dare la manetta. Ce li ho io nell'87, perché ho messo il clima a manetta. L'elicia è a manettone, non gli ho staccato il trimmer di qua, perché non l'ho staccato, c'è abbastanza forte così com'è, e che se stacco il trimmer, con il microfono normale sembra che stai usando un tale più 3, capito? Quindi, vedi tu, gli hai visto mio, ho diminuito la risonanza, perché è certamente forte in confronto al 2009, che è una cosa vicina, c'è una bella differenza. Questo in pratica c'è l'amplificazione 4 Connex 4000. Il Connex 4000 monta due finali lo stesso. Non ne monta uno, ne monta due. C'è 2266 e 2969. Preciso identico. Solo che devo cercare a vedere qual è il problema. Perché stavo uscendo bene tutto un tratto e quando scadono i finali scende di fatto, è come se ci fosse un corpo, ho controllato tutti i condensatori uno per uno, quelli a lenticchia, anche gli altri, eppure sono tutti quanti a posto. Non riesco a capire dove diavolo è il problema, devo portarlo adesso, uno di questi giorni lo porto a Vittorio e lo faccio fare da lui, che ci vuole per forza lo strumento per sapere dove diavolo è il problema. Così una volta lo sistemo e mi uso anche quello, capito? Tutto lì, l'ho lasciato da una parte, gli ho messo la mascherina del 3009 e quindi come se fosse un 3009 con l'effetto del corrente, normale, e poi normale, gli metto il potenziometro dietro piccolino e mi fa l'eco come piace a me, o reverbero, lento, non hai capito? No, questo è colto, no? Questo è normalissimo, tu lo vedi normalissimo, se ce l'hai la 87 lo vedi, no? C'è il primo tastino, che cos'è? La calibrazione, le stazionarie, eccetera. Secondo tastino c'è scritto off, ecco, e l'altro è il beep. Quindi io tiro su la levetta mentre sto parlando. Lasciamo la basso, e la radio diventa normale, non c'è niente qua di modifica, funziona tutto, M, FM, i canali sono A, B, C, D, F, quindi è perfetta la radio. No, avevo il dubbio della potenza, perché c'era una differenza dalla T230 alla facendo la prova. Io lo so che c'è Pusantino. C'è un cavetto rosso e nero, c'è, con uno spinottino da agganciare alla camera eco. Poi mi sembra che la camera eco si aggancia tramite un altro spinotto e quindi è fatta, capito? Ma io camera eco mica ne ho comprato, se la piglia in culo lo lascio così com'è. Non mi interessa nulla. Prendermi la camera eco e prendo la camera eco normale esterna e quella digitale, come quella che ha Vittorio Volpe, capito? Non so se esistono più, ma se riesco a trovare una cosa del genere prendo una di quelle, altro che eco corto, eco di tipo elicottero, è molto meglio. Quella di Vittorio è una cosa allucinante, la potete guardare come voi, è una cosa totalmente diversa, capito? Già gli è costato un bel po' di soldi con la camera eco a lui. Adesso siamo uno in uno, va a pagare in cose in lire. Adesso siamo uno in uno, la pago manco la metà. Basta che vado su internet, la cerco e la digitale ecco. E se ce la trovo me la ordino. E me la piazza esterna, capito? È molto meglio. Già me le ricordo quelle camere ecco esterna. Dottori Balle, questi cavetti, cavettini. No, questa è stata sganciata il suo eco originale ed è stata agganciata la scheda corte, il modulatore, tutte cose. Effetto aereo, oramai si chiama aereo, non più elicottero. Le cose lì, no, capito? Però io lo uso normale, tanto non serve a niente. Va bene che va bene. Non so, già si è un metro dopo entrava a fare due prove, però no, è impegnato. Va bene, va bene. Ok, stavo pensando. L'altro giorno, come è stata quella lì dal camper, in pratica io c'ero quella tipa lì che ho controllato nella funzione del telefonino, capito? E c'è scritto il suo nome, campionista, capito? Ecco, non l'avevo sentita, infatti vabbè, sono rimasto, non gli ho detto niente, la verità tricchia. Però c'è, evidentemente si è accattato anche il baracchino allora, anche perché la nostra il telefonino, se lui di 4-5 ore la batteria la va a fanculo in pratica, quindi meglio usarlo poco con quella funzione, perché la imballi la batteria. Io mi sono comprato quelle batterie da raccolto, l'acqua e sapore, quelle ausiliarie, una di quelle piccoline, l'aggancio, che bella carica, quando vado fuori per dire voglio usare il CB Talk, aggancio quello e consumo la mia e sono più tranquillo. Ah, quella è entrata l'altro giorno, piazza le segne che ci sono le giostre, da lì stava trasmettendo la 9:30, così arrivava anche a Franco, Santiago 9, piazza le segne per signorie, buono. Giulio non manco l'intendia, dentro lì nel piazzale delle giostre, capito, quei camper grandi che ci sono, sicuramente al 100%, oggi ho visto lunedì, ero al mercatino, è tutto pieno di camper e si vede qualche antenna in camper, quindi sicuramente è da lì che stava parlando. E allora già la conosco, io le conosco tutti quelli che hanno le cose lì. Il baracchino gli ho installato io, gli ho installato il 34 modificato io, a due di quelle persone che sono lì alla giostra. Poi c'era un ragazzino che era fissato su baracchino, quindi ho già capito chi è. È una di quelle che lavora per Matterland, ho già capito chi è allora. Ehi, lì lavora allora, la Matterland lavora. Ci ha detto che doveva buttare la pasta, erano già le 8. Lì lavora, certo che sì. E vabbè, comunque. Ci fa piacere se ogni tanto entra qualcuno così a quei livelli, non è un problema. Va bene, va bene. Aspetta che c'è la sua tarattura. Io faccio affidamento alla T230, voi che siano 18, che siano 20 o 22, non me la fotti nulla. Qua mi sta segnando 18 watt la T230 con questo baracchino. Vabbè, aspetta che ne ritolgo a mezzo ai piedi, che da quando ho staccato l'altra base non c'ho più posto di niente. Quello va fuori, metteva in armadio che è meglio. Fai pure. No, c'è una cassetta, sto mettendo tutto dentro lì, una ce l'ho già portata via. Adesso c'era questa degli strumenti, dei microfoni e l'ho già tutta messa a posto. Adesso questi li metto, questi due microfoni li metto dentro la scatola e poi in settimana li porto via anche questi. Una base l'ho tolta, non c'è più niente, cosa? Sono in fase di trasferimento, piano piano ci sto portando tutta la roba che non mi serve. Aspetta un attimo, dai. Se no, mi rimane tutto in mezzo alle balle qua. Fai. Già, dove no, mi ascolto, così per compare. Eccomi qua. Stavo dicendo, Antonio, sto aspettando l'ok da Andrea, appena è libero, perché sta terminando alcuni lavori. Quando mi dà l'ok di Andrea, viene a darmi una mano, dobbiamo togliere le direttive. Molto poco. Ecco che aggiudici. Allora se faccio così, questo è modificato, chiama di ascoltare un camionista proprio. Infatti già lo tengo spento io. Se l'estate, infatti l'ho lasciata fuori, non è che l'ho lasciato fuori, l'ho fatto un posticino. E lo sto usando perché mi piace. C'è una bellissima ricezione. Ho un 87 Colt, questo. Ne ho un migliore dentro l'armadio non più dentro la scatola. Questo è, mi piace perché funziona molto bene. Però l'estate magari serve fare un po' di casotto nel canale 45. Prova a parlare che prova a spostarmi in un canale se mi sblatteri. Vado a vedere. Attento Franco, Franco, Franco. Branca, branca, branca, liu, liu, liu. Oppa là. Ehi, ti sento, si muove un po', Ma è il canale adiacente. Capa, sì, un canale. Provo, prova che provo di due. Vado a vedere. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Branco, branco, branco. No, no, solo uno, quello a fianco, là. Beh, tu sei anche lontano, sei a Livia di Sicilia, però magari c'è l'antenna che non ti crea problemi. Ma io non devo splattere a nessuno, non devo rompere palle a nessuno, sono al mio posto, tranquillo e sereno. Se poi do fastidio, chiaramente abbasso, non c'è problema, però questa è la potenza della radio. Mi sembra strano, ti sto arrivando. Forse perché sono con l'altra antenna. E cioè che antenna stai usando? La 3 elementi, la monobanda per i 10, che è puntata proprio verso di te. È proprio lì ferma verso quella zona tua, è per quello. Infatti, sarà quello. No, comunque è un segnalone, cioè, non mi sembra che mi sia mai arrivato così forte. Sì, per non stare a commutare a cambiare ho messo sul baracchino, cioè uno e uno è stazionari, è una monobanda 3 elementi che mi aveva modificato Marco per farla trasmettere in 10. E funziona bene. Manco il cordatore sto usando, niente, nulla. Io sto usando, però anche se lo stacco non cambia nulla, quell'antenna che la sempre quella canna da pesca, dai. Ebbene, risuona bene, quasi in tutte le frequenze, dai 28 ai 25. Ah beh sì, già funzionano bene, non c'è problema. No, sono curioso di capire la differenza, allora aspetta che adesso commuto sulla mantova col K, vediamo quant'è la differenza. Quindi mi ha detto che sono sul più del... Adesso ti sto attenuando, oggi ti porto a 9, così vedo la differenza. E sì, sul più del 30, quindi prima del 30. Okay. Ecco, attenami che cambio apparato, uso il 440, vediamo che differenza c'è da un'antenna all'altra, però ce l'hai puntata sopra, però la polarizzazione è diversa, aspetta. Vediamo un po', quant'è questo invece il segnale? Qui sei 5, attenuato, nell'altro è di 9, ti avevo portato a 9. Minchia, 4 dB di differenza c'è. Così che c'è un guadagno superiore, pure. Vabbè, quella sicuramente è superiore, sì. Va bene, specchio che passo con l'altra. Sempre a questo Smith, non è che sia uno Smith affidabile questo, però la differenza scende da 9 a 5. Sì, vabbè, ho un riferimento, spero che cambio. È già a poco la differenza. È un bel. C'era qualcuno sotto, sentivo un fischiettino leggero. Sotto o sopra? No, molto sotto era. Allora, lasciamolo sotto. Qualcuno vuole entrare? Avanti che vuole entrare, canale 10, avanti. O sotto o sopra, che problema c'è? Non entra adesso fra, perché tu l'hai dovrei sentito sotto. Magari lui pensava di farsi sentire sopra. Oh, aspetta, mi stanno parlando in verticale. Ehi, io sono qua. Eccomi. Ehi. No, non c'è manco Mastro Giulio. Attento, Ronaldo. Oh, yeah. Perché con poca gente c'è, perché l'altro giorno stavo facendo un ascolto, oh, c'era varia gente in due o tre canali, insomma, anni che non vedevo, che non sentivo così tanta gente. Allora, noi siamo sempre qua sul 10, poi vabbè ci sono le radio mattone nel canale 20, poi in altri canali non ho mai girato, non so. C'è la gente sul 20, sul 10 e sul 23, cosa mai vista ultimamente. Beh, la rotta del 23 c'è sempre stata, Gio Maria, Marchisi, Ottore, quelli sono sempre stati. Vanno lì per farsi due chiacchiere tra di loro, visto che noi siamo aree più giovani, siamo qua sul 10, però quando ci sono io siamo sempre qua sul canale 10, non mi sposto mai. E capo, no, ma sentirli così contemporaneamente, tre canali occupati, era un bel po', dai. Vabbè, frate, che tu sei assente, non è che entri sempre. Anche io sono stato mesi che non, che proprio non stavo accendendo perché ero incasinato. Adesso sono un po' più libero, le cosettine stanno mettendo un po' più a posto e quindi la sera me ne sto in radio, già intanto dove vai. E poi finché non cambia l'orario, si allungano un po' le giornate, per farci qualche pescatina magari, che adesso non fa. Esci alle 2 da lavorare, quando arriva giù sono già alle 3, 3 e mezza, veniamo noi. Adesso vabbè alle 6 inizia a essere ancora. Queste 6 e mezza c'è buio, va. No, adesso prima che vada via Stefano si trasferisca definitivamente a Olga, stavamo parlando, dobbiamo andare a farci una mangiata come quella l'altra volta tutti assieme, quindi già ti avviso, penso che sia a breve. Io l'otto ho come si dice, una cena di pensionamento, un mio collega sta in pensione, quindi mi sono invitato, quindi lì sono impegnato a cena, siamo lì alle Quercia, siamo. L'otto la festa delle donne, noi dobbiamo festeggiare gli uomini. E che fate, agito? Boh, poi a cena, fate base dei groghi, perché ci sono altre donne, altre tavole di donne che fanno la beffa, vedrai. Ma infatti non capisco queste cene l'8 marzo, potevamo farlo un giorno prima o 9. No, lo so, dice deve partire forse, quindi potremmo farlo anche dopo, ho detto, non c'era bisogno di farlo così di corsa, no? Però ha scelto così e già va bene così. Vuol dire che ha fatto così, cosa avete di ghia, ma va bene. Poi è stato in gamba perché ha fatto una bella selezione, cioè, non ha invitato tutti, ha fatto proprio nomi e cognomi, quindi siamo i migliori. Ecco, ho selezionato proprio il Baravan. Ma mi ha mandato la partecipazione, la pergamena mi ha mandato. E quello l'hanno fatto anche a me. L'hanno fatto anche a me i miei colleghi, la pergamena, infatti me l'ho corniciata. E vabbè, sono belle cose fra, quando uno arriva all'età come me, diciamo, io sono ancora giovane, non sono ancora 60 anni, già sono un anno in pensione, vuol dire che abbiamo già dato. No, questo proprio era l'invito che ha fatto personale, no? È fatto in pergamena, non quello che gli diamo noi a lui col regalo. Ah, no, vabbè, io sono colleghi, quindi ho preso in bacheca l'invito per tutti tal giorno e fatto molto intuso io, annulli, e quindi niente, anche perché ci vedevamo tutti i giorni, la sede era quella, quindi tutti i miei colleghi ho invitato e basta. Anch'io ne ho fatto qualcuno lì, molti colleghi miei sono di Nulvi, ne ho fatto un altro giorno da poco e andando verso, da Nulvi andando, come si chiama il paese? A Chiaramonti mi sembra, c'è un paese che si chiama Santa, non mi ricordo cosa, e c'è questo agriturismo e forse c'è anche qualche cameretta. E ti dico che siamo stati veramente bene, poi il nuovo ci avrà qualche anno di vita perché si vede che è nuovissimo. Quindi da Nulvi esci da Nulvi dove c'è, per capirci, tu lo sai, passaggio a livello e poi lì si va a Martis, cosa c'è? Martis, poi c'è l'Aero, Israele, Mursi, Sedini, in uscita per lì o dall'altra parte verso Chiaramonti? No, quella verso Chiaramonti, mi hanno detto, Santa Giusta, adesso non mi ricordo che nome è quella zona lì, forse Santa Giusta, non vorrei sbagliare, comunque c'è una stanza, Santa Reparà, una cosa del genere. Sì, là sto andando verso Chiaramonti. La strada di Santa Giusta è quella che praticamente è l'uscita di Nulvi, dove c'è la cantoniera dell'ANAS, giri a sinistra, quella è Santa Giusta, dritto è Perugio, quindi dall'altra uscita di Nulvi. L'uscita della stazione, quella che praticamente è in disuso, quella lì già hai capito, lì c'è l'ingresso di Martis, poi si gira per andare a Chiaramonti, dritto vai a Martis, l'aereo Buzzi e Sedini, quindi giri lì, ma prima o dopo la fontanella, la fontana che c'è? Non mi chiede particolari, mi ricordo abbiamo fatto però la strada nuova per andare, che io non avevo mai fatto, quindi un po' sono rimasto disorientato. Ma siamo arrivati subito, dai. Non mi ricordo neanche il nome di questo ristorante. Però veramente in gamba, siamo stati veramente bene. Ma siete usciti sullo scorrimento veloce? La stanza abbiamo fatto lo scorrimento veloce, sì, la strada per Osilo e poi abbiamo preso lo scorrimento veloce. Ah, ho capito. Allora, su Bullone stai dicendo tu? No, su Bullone la trovi andando da dove? Boh, me lo ricordo andando dalla 131, passando da lì, quando esci da Nulvi che trovi in croce l'aereo c'è subito su Bullone. Se ti metti nello scorrimento veloce per tempio. Poi cosa c'è? Santa? Sì, c'è una santa, non mi ricordo neanche io. Però ho capito dove sia, una del turismo che ci avrà sino un 3 anni, 2 anni, 3 anni. Sì, è nuovo, si vede che è appena fatto, un paio d'anni se ce li ha da. C'era di nuovo qualcuno sotto. Avanti, sei sempre sotto, avanti. Avanti. Sono vergognoso. Fra, tu dille che è sopra e così non si vergogna. No, a malapena, forse se lasci bianco si sente qualcosa. Io come ti arrivo io lì, con la direttiva? 9:10, sì, mentre con la trentena sei 9. Quindi guadagni anche in ricezione, eh? Sì, beh. Ha voglia che guadagna. Questo esce con 10, dai, 10 più qualcosa in più di modulazione. Vabbè, questo è perché è modificato. Se no come regola ne dovrebbe avere 10 anche questo, però invece ne ha 20, 22, quando è corto ne ha più di 40. E allora come, vabbè, 40 no, ma 20, 25, 30 arriva l'altro, il Super Galaxy, quello che è potenziato, però dalla fabbrica e non ho toccato niente. C'ho il Typhoon 2 io come Super Galaxy, quello c'ha 25 watt e quasi 50 quando attivo la scheda corta, anche quello. Anche, ma quello è modificato, anche quello? Sì, ne ho 3 modificati, 3. Sono tutte e 3 fatti uguali e vanno bene. Però questo mi piace di più, perché c'è il tastino suo praticamente off-on, dove c'era, perché questo nasce già con l'Echo incorporato, no? C'è proprio scritto Echo, tiri su e si attiva il sistema call, mentre gli altri ci sono delle modifiche, regolazioni, no? Questo è il 100%, no? Non c'è nessuna modifica esterna, capito? C'è FM, tutti i canali, no? C'è solo questa attivazione, eliminata la sua scheda normale, è praticamente attivata quella corte con doppio modulatore, bip e via così. Hai fatto modificare tu o l'hai comprato già modificato? No, è stato modificato questo, comprato normale e modificato, come l'8001, beh. E mi dico, ma per tua scelta oppure l'hai preso che già modificato da qualcun altro? No, ho già comprato modificato. Perché costa un pacco di soldi la modifica del genere, no? Se l'ho costato 400 euro. Allora, solo la modifica, più l'apparato. Più l'apparato. solo la modifica, sì. No, no, ho preso l'apparato, modificato tutto 400, vabbè, 450 euro, però una bella, per una bella radio, c'è un ricevitore, trasmettitore favoloso, è molto selettivo, non sento neanche campanello quando si sposta sul 20, si attacco l'ala 48 si spegne. E l'altro giorno Chieta stava lamentando che forse è corso Gianni doppio rum che prendeva colpi dal 20. Stavamo parlando Marco, sono molto vicini. Allora la 48 non si può usare in città. Oh, io ce l'ho sempre dentro l'armadio. Un giorno l'ho attaccato e te ci ho provato e se funziona ancora. Manca a fare apposta, c'era un cavallo sul 14 che stava facendo le prove. Accendo la radio, era completamente muta. A me la radio non serve più a forza di tenerla ferma. Poi a un certo punto è apparso il QRM, perché lo smitter c'era uno, due di segnale di QRM e andava tutto indietro. A un certo punto è apparso il QRM, ho girato e c'era un tornare 14. Non si può usare quel baracchino, è proprio, mamma mia. Abbattimento zero, io mi ricordo, guarda, l'ultimo dei tre mi sembra che fosse, per carità, l'ho venduto subito. No, un baracchino eccezionale da macchina, sicuramente, piccolo, consistente, un bel trasmettitore. Ma se lo metti a casa, io ne avevo uno Colt, che avevo comprato da Gigi Vulcano. Lo volevo usare a casa, ma me lo sono venduto perché non potevo usarlo, non c'era niente da fare. Così non va bene. Quando prendi colpi così ti nervosisci. Beh, se ti metti a fare questo e poi non capisci i corrispondenti, allora è chiaro che ti incazzi. Questo è veramente eccezionale. Ho già fatto le prove durante la settimana, seguendo, facendo, è eccezionale. Veramente, non molto selettivo, non sento niente, come che abbia il K. No, no, si vede che funziona bene, si vede. No, anche la modulazione non è molto, come si dice, metallica, sottile, tipo quella dell'altro giorno che stavi parlando con quel microfono, con l'MV più 5. A me proprio non piaceva la modulazione. Questa già c'ha qualche tono basso anche. No, vabbè, quelli stavo provando perché li ho tolti per pulirli, anche il tono più 3. Va molto meglio, però col Superstar, io c'ho anche il 3009 Superstar che non è modificato quello, col Pane più 3 è una bomba, proprio una bella, bellissima modulazione, me l'hanno detto tutti, però non posso mettere tutte e mezzo ai piedi perché non c'ho più posto fra, e allora ho lasciato questo con il microfono normale, già andare. No, va benissimo. No, anch'io ne attacco qualcuno così, ogni tanto, e basta, qualcuno e metto l'altro senza fare albero di Natale, dai. E cosa devi alberare? Ogni tanto attacco il valvolare, specialmente in inverno, che fa piacere. Ulla. Guarda, c'è. Non sento di rilei scattare per baracchino, boh. Qua sembra tutto regolare, boh. Aspetta che tolgo il bip, vediamo. Forse è il bip che si è incantato. Adesso non c'è. No, non c'è, l'ho tolto. No, nel senso che già non c'è incantato, il bip quando lo togli realmente non c'è. Ho capito, ma mi stava mancando la ricezione, vediamo rimettendolo. Sembra che vada bene. L'avevi fermo la moto? Cosa fa? Se l'avevi, dico, in stand-by da moto questo apparato, me la fermo da parecchio. Da parecchio fermi sono, e per quello lo sto usando, perché se parte qualcosa sono costati un sacco di soldi, capito? Questo, il samurai, l'altro giorno è scomparsa una riga di LED nella lettura del frequenzimetro e poi sono riapparsi. L'altro invece era spento 2-3 anni, forse anche di più, e si è riacceso da solo, senza fare niente. Sto dicendo, io ho il Typhoon 2 che è uguale a questo, perfettamente funzionante, una bella radio. Per farlo partire tu lo accendi, per sentire la ricezione, ve lo lì un colpettino e poi non lo fa più. sto cercando di eliminare l'antenna, ma detto, sicuramente c'è qualche falso contatto. Oh, madonna. O qualche relè, come dici tu. Qualche relè sicuramente, sicuramente. Però io non, baracchini non ne ho mai fatto, non li conosco, non so, adesso vediamo lì. Non ritorna, non ricomuta magari ricezione dalla trasmissione. Non è strano, perché quando tu lo accendi non senti niente, è un colpettino sulla sopra, vicino alla, cassa, diciamo, e funziona. Qualche saldatura fredda, boh. Qualche saldatura fredda. Guarda chi invece so. Va, tutta roba di... non so quanti anni abbia quello lì, ma questi hanno più di 30 anni, forse 40 quasi. Beh, quelli che io sono tutti in vintage, non è che sono baracchini già adattati, 87 non so che hanno uscito. C'ho anche il coso, il Ranger, che è molto bello, però praticamente tu sei sul 10 e ti sentono sull'11, sul 12, sul 13 con lo stesso segnale. Oppure viceversa, 9, 8 e 7. E allora l'ho tolto e l'ho messo a parte, anche se è molto bello, è tutto digitale. E non so di chi hanno neanche quello. Però sono adattati, dai, non sono baracchini recenti. E questo è più vicino ai 40, se non sbaglio. Sì, sì, è così, è vicino ai 40 anni. E figura di due. Figura di due. Però fra, funziona una cosa. Erano tutti sistemati, nel senso puliti, ordinati. Qualcuno me l'hanno chiesto, però ci vogliono soldi, perché a regalare ho regalato anche troppo, adesso basta. Avanti. Avanti, ma è nada. Sono rientrato. Ti faccio sentire cosa ho trovato stamattina. Prima di... dal polvore, cioè questo è il polvore dove... prima di arrivare, alla 4. Mi aspetto, faccio vedere. Faccio sentire più che vedere. Che non lo puoi vedere. PSR3 nuova, in scatolaccia con addirittura gli stop tizi. L'unica cosa che aveva era l'avevo dato bruciato 12 volts. 12 volts, bruciato completamente. Bruciato, esatto, sì. Figurati. Senti Antonello, sì. Sì, già lo sento, già lo sento. Ciao Antonello, ben sentito. Cos'è una tastiera, cos'è? Sì, una tastiera. Tastiera ISR3. Capito? Stavo scendendo per prendere l'acquato stamattina e l'ho trovata nell'angolino vicino al palazzo dei comunisti, buttata in terra, scatola e tutto. Che fatta, mi riporto, detto vieni un attimo, detto, vieni a prendere, detto che gli detto, io sono andando in banca. Gli ho dato in mano, ho detto poi stasera detto la controllo. Quando gli ho messo l'alimentatore su non funzionava, gli ho messo l'alimentatore del baracchino le portate a suo corpo, ha funzionato. È perfetta, nuova, non c'ha un graffio, solo non c'ha un graffio. Ma bella mia, la tastiera bella. Minimo questa verrà intorno ai 60-70 euro forse, una cosa del genere. Ma grande, mi. E una c'ha però l'alimentatore esterno. C'ha la sua parte esterna, infatti, uno solo, non ne ha due, ne ha solamente uno. Vabbè, comunque c'ha tutto il resto. Quello c'ha, può fare quello che vuoi, il tempo, il ritmo, il computer è già certo di schiacciare col computer, memorizzare le cose, c'è il voice, la selezione. Ma bella veramente. Ho avuto un culo stamattina, ragazzi, oggi sono stata fortunata. Qualcuno voleva entrare? Ma c'è qualcuno che vuole andare? Sì, c'erano dei colpettini importanti quando stava parlando, ma c'è tre sotto. C'è qualcuno che vuole andare avanti, il canale è aperto a tutti, non è chiuso a nessuno. Sì, lui voglia giocare. La mia mi sembra che sia della Casio. L'alimentatore però è esterno, c'ha l'attacco a jack, no? Lo spinotto. Anche questo è l'alimentatore esterno, 12 volts. Questa è Yamaha, la PSR3, fidati. Quindi è sono andato bene stamattina. Uno di questi giorni vedrà che trovo qualche apparecchio buttato in strada, da qualche cibino o l'animatore che per sbaglio c'era qualche villetta, cazzo ti chiamo, vieni e la cattiamo. Magari. No, Yamaha già è buona, fa belle cose. Lo so. Mi già lo sa Claudio quanta cosa ho trovato io. Televisori, videoisattori, DVD, dell'Amstrad, nuovi, ricevitori digitali terrestri. Ha detto anche il computer già l'ho trovato dentro cassone. 100 CD, nuovi, meglio che registrati. Capito? Idea di raggio biliardi, tutto fortuna sempre, meno male, questo era parecchio però non trovavo niente. Capo, guarda, il stavantiere era mora fa lì, siccome il mio collega diciamo che ha raggiunto la pace dei sensi e adesso ci abita un'altra persona, quindi ha buttato giù tutta la roba dell'ex proprietario. È un peccato, c'è un sacco di libri belli, pieno di DVD, film, però ormai, cioè, quello che vuoi te lo guardi su internet, infatti non ho preso nulla. Io ho qua due villette che sono affittate alla ragazza dell'est, già lo sa Claudio, quella dell'angolino proprio, quella fa la rotonda, le prime due villette dell'angolo, quelle sono affittate a extracomunitari, però non nigeriane, no, polacche, cosa del genere, cosa fanno? Si comprano per dire DVD, videoregistratori, cioè non videoregistratori, DVD, ricevitori digitali terrestri, anche a volte anche televisori, più e si lampano in brutto, hai capito? Ma solo poco l'ha preso, io ci buttavo tutto, quei televisori piccolini, 14 pollici e quello del genere, c'è fatto un altro razzo di cose così, e se no se ti fai un giro di vestiti nuovi, imballate addirittura, scarpe nuove, scatolate tutto. Quando abbandonano gli appartamenti, poi gli ha girato di tutto. Ma non ne ha trovato più di radio, Antonio? No, radio non l'ho trovato più, cazzo, ormai. La vita erano tutti cassonetti, cazzo, lì. Questo l'ho trovato in terra, nell'angolino, proprio attaccato dalla casa dei comunisti, l'ho trovato. Prima della raccolta dei vestiti usati. Era in terra, la scatola, ci ho messo il piede sopra, gli ho detto, cazzo, questa cosa è toppella. Quanto momento c'era questo Yamaha, giubilato, ho chiamato mio nipote, a Mirko, gli ho detto, vieni immediatamente, ho detto, che ti detto, che io devo andare in banca. E vedo, sono ritirato. E adesso lì, l'ho controllato e mi ricordo che c'ho quello del barattino per partire, quello vendi con 50 S, 12 volte, scusate, no? È una perfezione, è una bomba. È una casa solo, vabbè, pazienza, però almeno ti puoi divertire a suonare. Invece c'è un periodo ce ne trovavano parecchie di queste cose, adesso non si trova più niente. Vabbè, la gente non è comparendo più baracchini, pagisci. Avanti, fra. Magari a trovare roba così vintage, sicuramente ce n'è in giro qualche soffitta. Poi te lo fanno infatti come secondo lavoro, vanno a svuotare soffitte, a ripulire e trovano un sacco di cose, altre cose le riciclano, se le vendono, si fanno soldi. Un sacco di amici che svuotano soffitte. La tastiera poi quella lì la puoi collegare anche a un impianto wifi, guarda, se c'è l'uscita delle cuffie, che quella dovrebbe essere stereo, la collega all'impianto e diventa una bomba. Sì, c'era l'attacco delle cuffie esterne infatti. Io per quello che attacco le casse del computer le aggancio, quelle da 15 watt. E diventa stereo, diventa un demonio, c'ho quelle bianche, c'ho. Io ho casse di computer, ne ho tre paia, ne ho, figurati. Io fra figurati avevo trovato appoggiato lì cotto, poi se n'è andato, l'ho lasciata lì per terra, tutto sotto casa. L'avevo portata lì a, al mercatino, me l'avevo fatta i soldi, 50 euro. Da molto, molti anni fa? Un po' di anni fa, ero via Pascoli. Era via Pascoli fra, vicino a Cassotto, proprio sotto casa, lì dove c'era quello di caccia e pesca. Sono sceso, buttavo un destra lì di sera, sul tardi, verso le 10. E ho trovato questa radio. Era tutta pulita, disinfettata. E poi l'avevo portata lì a, a Gianfranco, un amico che c'ha questa, queste cose che vende, questo, un provendo scambio. E me l'ha venduta a 50 euro. Ha detto va, ah va bene, per essere trovata già va bene. Mi ricordo, un mio amico era militare alla Maddalena, aveva preso questo radione, ma c'era una cosa spaziale, comprato da questi americani che erano lì alla Maddalena, c'era un pizzicato mezzo ubriaco, gli aveva dato una fesseria, ci ha portato via questo radione che era dalla Toshiba, ma era una cosa spaziale veramente, si sentiva di un bene. E quello era della Sanio, aspetta che mi stanno chiamando al telefono. Ehi, capo, lì, c'aveva addirittura una levetta che era mono, stereo e spaziale. Il suono si apriva ancora di più dell'effetto stereo. E tipo quello è, come si dice, CDRS, va? HD in pratica, il suono HD ti faceva, più che spaziale. Comunque, ci hanno conosciuti, c'era anche quelle radioni con televisore, in bianco e nero, te lo ricordi? Sì, sì, col televisore al centro, no, questo era solo radione, c'avevano una cassetta e ci volevano, mi sembra, roba di sei torcioni dentro e costavano belle batterie. Sì, le batterie usavano i torcioni, per esattezza, i torcioni quelli grossimi, da 800 mA, perché sennò un tubo che sopportava quelle batterie normali. C'avevano anche intorno a 60 watt quelle radio, c'erano certe casse, certi woofer, certi filter, che è una cosa allucinante. Me ne ricordo, ne ho avuto quei radioni, ne ho avuto, mi sembra ne ho avuto 3 o 4, una cosa del genere. Cazzo, andavamo lì alla Pelosa a fare gomma, cazzo, quando l'accendeva era uno spettacolo, faceva la colletta per occuparsi le batterie. Hai avuto culo, cazzo. Si è scatolato e tutto, cazzo. Appoggiato in terra e scatolato. Come l'ho visto, la giovinia di Bene immediatamente gli ho detto vieni, mi dico, e ti porto a casa, poi già ci penso io, e ti stasera quando vieni. Allora ti hai passato un paio d'ore inventando, aggiustando. Allora, ci sono arrivato subito, perché l'ambientatore scalda, la tensione non esce col test, e quindi cosa ho fatto? Ho sotto l'alimentatore del portatile, quello che c'ho io, delle dendi con 40S, gliel'ho agganciato e funziona benissimo, quindi ci vuole l'ambientatore 12 volts. Quello che c'ho io da 1A, la voglia che ne sopporta la roba. Invece la mia si è messa a 9 volts, non è a 12, peccato, però ho preso un trasformatore di quelli abbastanza robusti, mi sembra sia da 1A, 1 o 2A, e la regge benissimo, l'attacco a spinotto. No, questo è a 12, ho controllato quanto è la tensione ambientatore, 12 volts, tutto funziona. Una bomba, se l'attacco l'amplificatore diventa fuori di testa, lo dico io. C'è un amplificatore da 100 watt, qua se metto un amplificatore con due casse da 100, ha voglia di suonare. Adesso non la sto più usando, che è ferma in un cassetto, se no io la collegavo proprio all'impianto stereo di casa, che al tecnico dà con le casse della GBL, una bomba diventa, proprio una bomba sul serio. Sì, infatti, è proprio quello. Singolo. Yeah. parlate senza parlare. Il televisore senti la camera da letto, già lo so. Una, due, due, mentre. Vediamo il minimo, amico. No, no, a parte quello, mi sembrava il segnale un po' oscillante, no, no, no, no, no, si sente anche, sì, chi parla sotto, il rumore di fondo, dai, no, mi sembrava il segnale oscillante. No, non è possibile che sia oscillante perché l'altra volta dava di difetti strani, adesso no, c'era le aperture della piastrina metallica che c'era all'interno dell'apparecchio che toccavano o non toccavano, capito? Ho preso le saldazze. L'altro giorno, è perfetto. Non si muove questo baracchino, già è stabile adesso. Ha tutto a sette. Più che altro erano le facce portate dal caldo al freddo, capito? Sì, no, no, è solo i picchi di modulazione, dai, basta, quelli ce li ha. Sì, i picchi di modulazione dovrebbero essere positivi, perlomeno. Ora. È tutta la retta, quindi. E tiepido il discorso, i finali. La ovvia. No, no, sono positivi. I miei sono positivi i picchi, io se ne ho, non lo so. Prova. Ora. La ovvia sono positivi. Sono positivi? Sì, se non ho posto i picchi. È perfetto. Non è grosso l'alimentatore, non è specialmente quando uso l'altro che esce con 25 watt, sembra che sia un po' in crisi, si abbassa un po' la luce dello smitter. Devo pigliare anche l'alimentatore, quelli ausiliari, soltanto uno lo piglio da 2 ampere e mezzo per aggiustare la roba qui a casa, perché quello mio, se l'alimentatore è normale, si è bruciato qui a un certo punto. Prendo uno switching e lo fa culo, 2 ampere e mezzo, poi mi piglio quello da 30 per poter agganciare tutti gli apparati assieme e così sono più tranquillo. Un attimino che rientro subito, devo fare una telefonata urgente. E via classe, siamo qua. Da 30 è grosso, da 30. Invece quelli che sono dentro il computer, quelli hanno pochi ampere. No, se ce l'ho io, se lo voglio con il computer, danno 12 ampere, però devi fargli la modifica. Del genere? Su internet devi andare, c'è lo schema, e devi collegare tutti i cavi osi assieme, tutti i neri assieme, e poi ci sono i 5 volt pilota da collegare con la palina in assorbimento in pratica, capito? Tutto lì, non c'è da fare altro. Allora me l'hanno fatto così a me tanto tempo fa. Capito? E dava 12 ampere. E solo che bisogna guardare su internet. Ci sono modifiche da fare. Io di quei alimentatori ne ho uno. Se lo trovo ti chiamo e te lo prendi, intanto io non faccio niente. Sempre che vada bene, come dici tu, a trovare la modifica, dai. No, non pensavo che fosse così complicato, pensavo che avessero pochi fili, invece a quanto pare c'è parecchi fili. Sì, ci sono 12 volt su 2 ampere, ci sono 12 volt su 50 mA, capito? E quindi devi collegare tutti questi, forse devi eliminare magari qualcuno e guardare gli altri con la testa, tutto lì. Una misurata, abbassa di nuovo Ale, che sennò si sente tutto. Non ho capito. Abbassare l'amplificazione, che si sente un bel quello che ti circonda. Il televisore c'è in camera da letto, senti. Ecco fatto, adesso va bene. Sì, almeno siete solo a te. La 87 è una cosa allucinante come apparecchio. Salamandra è il 2009. Con Salamandra c'era un adattamento tutto perfetto. Figurati, è come attaccare il cavo più 3 e dire in un toccai, tale uguale, che si sentiva molto forte. Questa non è molto amplificata la mia. No, va bene, come non è esagerata per dire. Il Kevudu quando sollevi Costa Delta è una cosa allucinante per dire, in FM, anche in AM la si senti qualcosa, già contento io, anche se il Kevudu ne ho usato due, non ne prendo più perché sono a parete che ormai non valgono più niente, capito? Il discorso è quello, una volta che si guasta non puoi più ripararla, ma dove cazzo lo ripari? Non ci sono più pezzi. A un certo punto rimane come un pugno di mosche, no? È bello, trasmette bene, riceve bene. Se li avessero per dire qualche dita riprese in mano attorno per rifare quel tipo di apparati, un sacco di gente se l'avrebbe ricomprato per dire. Hai capito? L'altro giorno mi hanno fatto provare un paio di apparati, di quelli professionali, là. Uno Yeis, ma non mi ricordo che sigla era, però con Claudio ci ho parlato qualche minuto, non mi sentiva fortissimo di radio, anche pur aumentando, vabbè, per il poco che sono riuscito a smanettarlo, dai, non era fortissima come radio, anche se stavo uscendo in orizzontale però. Gli unici che escono fuori sono i Kevudu, 140, 680, 440, 430, basta. Poi gli altri apparati professionali sono fatti esclusivamente per le bande laterali, e per la MFM non è che sia questo granché, cioè per FM sì, c'è un quadro in banda, ma per la M è proprio, devi metterci un microfono amplificato, cercare di adattarlo e entrare nel menu, capito, regolati il menu a seconda della tua timbrica di modulazione. Quindi io quando ho preso il quadro in banda l'ho preso e l'ho lasciato così come originale, non è neanche toccato. Mio è nuovo, non è stato mai toccato né dentro né fuori. L'unica cosa che avevo toccato era il 80, ci avevo messo 12 bit, 4 toni, basta, non avevo fatto altro. Però del resto non avevo toccato nulla dentro, niente, non avevo nulla, né finali né niente, intanto lo aprivo, lo pulivo, la ventolina, perché di solito capita quando c'è polvere, si incanta, capito? Talmente è sensibile, che a seconda di quanta polvere c'è si blocca, capito? E quindi devi pulire con lo spazzolino. Sono rientrato. Capa, riprendi qua. Sì, la polvere è una brutta bestia, anche nei computer portatili, mamma mia, intanto tocca smontare, cambiare le serventole. Riprendi qua. Antonio l'ha volato io, si è tanto, l'ha tenuto magnificamente, poi si l'ha venduto. Le avevo messo la maschera a toni, in pratica c'era 4 bip, cazzo Maria, un baracchino, me lo ricordo, Corsa Delta. A chi l'ha venduto Antonio quello? Ah Claudio, ma ciao Claudio. A Stefano l'ho venduto, poi Stefano in pratica l'ha dato un altro, quell'altro che l'ha preso ha avuto problemi per staccare la scheda, perché io non mi ricordavo più come erano i lì, come fare, capito? Perché avevo perso il foglietto, è la scheda della, non della Intec, ma quella che ci ha fusato, capito? Quindi è un casino era. Però l'apparato grazie a me funzionava bene. Però mi sono pentito di averlo venduto in realtà questo tanto. L'avevo avuto ancora. Ho fatto male a darlo. Purtroppo non avevo bisogno di soldi e quel periodo lì ve l'avevo fatto. A un certo punto mi sono sacrificato, poi te lo ricordi, mi avevo comprato con 140 e dopo che a un certo punto ho detto per non fare il cazzo sempre appresso a usare un HF, comprarmi un V e U separati, ho preso quello di Arezzo lì e basta, non ho preso più nient'altro. Capito, anche perché sono apparecchi ormai di tanto tempo e non ne vale neanche più la pena tenerlo, perché è a rischio, capito? Purtroppo così, a meno che non gli venga in mente qualche cinese, qualche cosa, di aprire nuovo la fabbrica della Kevudu che faccia di nuovo apparati HF e quindi ci sarà magari la libera vendita e troveremo come prima. Magari ci esageranno intorno ai laboratori per fargli le modifiche, per fargli le regolazioni e cose del genere, magari lo faranno anche, posso dire, digitale, bello, eccetera, eccetera. ormai da tempo da fallito, quindi pazienza. Speriamo solo che qualche cinese si svegli e che faccia apparati come si deve. Sì, ma cosa c'entra da fallito? Ha chiuso, ma ha fallito. È stata rilevata dalla IAESO, quindi se tu vai a comprarti, per dire, prima si chiamava TS 450, adesso si chiama FT 450, lo trovi nuovo, vai te lo compareggi, costa 600 euro mi pare, 700 euro nuovo, ed è una bellissima radio, c'è anche 50 mega ed è simile al come dimensione e quanto è un 140, però superiore, digitale, una bellissima radio. Non è che, perché la Kenwood ha chiuso e adesso stanno rifacendo le radio con gli stessi nomi, anziché TS 450, come si chiamava prima, si chiama FT 450, è nuovo, vai a vederlo, cioè sono molto belli, molto molto molto. La Kenwood è stata assorbita da ESO, quindi le radio continueranno a farle con un'altra sigla, Antonio, però già le fanno. Vai Fra. È un po' come ha fatto la Motorola, che ha chiuso e l'ha riassorbita adesso la Lenovo, però sono sempre, se tu guardi i telefoni, sono sempre Motorola, sono sempre belli. Non sapevo niente io che la verità, in pratica, vediamo se si apparecchi, tu sei se li chiamano marcati e gli AESO, la verità non sapevo niente, quindi se tu vuoi per dire trovare un 430 per dire, un 440, vado a cercare un AESO effetti per dire 440, è uguale, magari cambierà qualche cosina all'esterno, però sono precisi come... Vabbè, a parte i componenti dentro saranno senz'altro diversi, questo è poco ma sicuro, saranno tutti quanti microprocessori e quindi sarà molto difficile ripararli. Non lo so, io mi sono stufato di tenere il microfono da palmo in mano, fra. Sono passato con la mia mitica, il mio mitico 440. Ok, va bene. No, ma ti sto dicendo che guarda che è una bellissima radio quella, qualità prezzo è una bellissima radio. Ed è praticamente quella nuova che ha tirato fuori la IAESO, capito? Tutto qua. Vabbè, comunque. Vedi tu, piacerei le radio se te la vuoi comprare, non ci sono problemi. Avanti fra. Comunque non penso che faccia modelli retro, se fa qualche modello come dici tu, il 450, così cla. Sì, beh, 440 non fa più, 430, 440, sì, 80, 140, però ha fatto dei modelli molto belli, che non costano molto, però sono praticamente superiori, ecco, perché ha fallito e via. È stata acquistata dalla IAESO, la IAESO continua a fare le radio con delle sigle che portavano prima i marchi Kenwood, capito? Ho capito, aspetta che mi stanno chiamando. Vabbè, adesso non ci sto manco pensando a comprarmi radio, la verità. Ma in seguito, se entro a lavorare, mi prendo un nuovo di fabbrica e lo fa culo, me lo tengo ben stretto, come sto tenendo ben stretto anche questo qua. Questa panica che ho io, l'altro giorno mi ha chiesto Stefano se lo stavo vendendo, ho detto guarda, no, me lo tengo, ho detto, ma ti do... no, non mi interessa, gli ho detto guarda, non voglio ritrovare in HF come prima, e poi comprarmi per dire un VU è un casino, gli ho detto no, separati dalla VU, va bene così com'è, gli ho detto. L'unica cosa che mi compro, gli ho detto, se mi compro, gli ho detto, trattore, un bel microfono, vabbè, penso di metterlo in saletta, dovrebbe andare benissimo, e non ci sarà bisogno di regolare niente. Mi compro solo la trattore e basta, non mi compro nient'altro. Perché va bene così com'è. Con gli apparati ce li ho, VU, ne ho voglia, ne ho due, cosa vuol dire? A un certo punto cosa me ne faccio? C'ho solo quelle antenne che ho, quindi sarebbe una cosa inutile, cioè sono sprecati, lasciare gli apparati così fermi a guardarsi non va bene, non va neanche. anche bene, e quindi ritengo quello che c'è a Oakland. Che è bello quello, lo so, sono sempre stato innamorato, però usare il telefono da una parte, poi magari vado a accendere, non lo accende più, oppure mi dà dei difetti, meglio non lo disco più. Sono apparati ormai che hanno superato la loro età, e quindi non ne vale neanche più la pena. Che lo compro, lo compro a rischio, come gli effetti 757 Gixi, come l'ha comprato Stefano, portato a casa, sempre un'ora, un'ora e mezzo, eccetera, eccetera, la cazzo crepato lo stadio finale, perché non funzionava la ventola, e gli ho detto la ventola non sta funzionando, gli sta parlando troppo, ho detto mi sembra una cosa strana, tu provalo, è stato proprio, dopo 3 minuti si è sceso la pallottola a 0, ho detto ma ciao a me, fottuto solo, e infatti così si era bruciata. E c'era ancora Adriano a casa sua, se non mi ricordo male, figurati tu, 300 euro spesi per niente, quindi a un certo punto non conviene più, stata una cazzata, tu vai a modulare e ti trovi inchiappettato, quindi meglio la roba nuova, sei più sicuro e dormi sogni tranquilli. Lo so Antonio, è proprio così. È proprio così, però senso la parola, però purtroppo nel radio vanno giovecci. Sto conti 4.40 che c'ho io, 4.30 ho riparato una volta solo, poi l'ho riparato Fabrizio. 4.40 l'avrò riparato 4-5 volte già. Sempre lo stesso problema, anzi è stato fatto tutto revisionato 2 anni fa, adesso vediamo quanto dura. 220 euro, 220 euro, fate il conto, non ne vale manco la pena, però è una radio che io ci tengo e quindi me la sono nuovamente messa a posto. Però hai pienamente ragione, quando le radio sono vecchie, no, ma guarda che l'FT450 è una bellissima radio, funziona molto bene, anche la M funziona bene. E costa mi pare 700 euro, una cosa del genere, nuova perché è in produzione, quindi è nuova, perciò quando ne hai voglia ti guardi i siti della IAESU e ti prendi una cosa come cristiani. Quello sì, quello che ho io è l'857D, vale ancora dai 450 ai 500 euro, quindi figurati, è nuova, che ho io, da Marco l'ho usata pochissimo, quindi c'ho su scatola tutti i componenti da metterci per poter usare in macchina, mai stato usato roba così, tutto imbustato, cosa del genere, quindi... In seguito se dovessi avere per dire trovare un lavoro, guarda mi piglio un apparato come si deve serio, un bel apparecchio serio e me ne sta la casa, basta. Potrebbe divertire più che altro. Tutto lì. Ok, riprendi fa che scendo questo organo giù adesso che così Giovanna si addormenta, è tranquilla. Ci sentiamo dopo, dai, fatemi un 4 ore a 20 minuti di tempo. Stavo guardando la radio, mi può far cosa abbiamo parlato assieme. 682 costa il IAESU FT450D, veramente bello il clap. Io metto 700 euro, l'ho preso con questo. Io ho detto 700 euro, quindi veri bene, siamo lì da. Più 15 euro di spedizione, ma una fesseria da. No, vabbè. Non lo so, vabbè, perché ce l'ho un mio amico e funziona molto bene. Poi l'ho provato anche in HF e ti dirò che è ottimo, vabbè. C'è un attacco di microfono e non so come sia quello del K. Però è uguale a quello della IAESU, sì, che ho provato l'altro giorno. Sì, è quello clippato, sì, quello lì. Sì, è un attacco, penso che sia, non so se sia rettangolare o quadrato, No, adesso non me lo ricordo, però è un attacco particolare che va molto bene, va molto molto bene. Aspetta, ti invio la foto, aspetta. Sì, lo conosco. Se stai parlando dell'FT450 la conosco. Poi non lo so se è un'altra radio. No, è quella, in effetti il 450 c'è questa D, che non so cosa voglia dire questo D, non penso che sia digitale, boh. Sì, sì, si chiama FT450D, sì, forse sta per digitale, non so neanche io. Però esteticamente è una radio che funziona, è una radio in HF che dà delle ottime soddisfazioni, veramente. Non so, poi ti ripeto, per comprare nuova è chiaro che è meglio comprare queste radio qua. Però non ha le, non copre, diciamo, le stesse frequenze del, diciamo, del 440? Uguale, ne ha in più, c'è anche i 6 metri, arriva da sino ai 50. Ma quindi è addirittura superiore, cioè copre anche più frequenze. Si copre più frequenze, è una radio digitale di ultima generazione, il 440 ormai è un baracchino sintonia continua, se tu vai a ascoltare un HF con quello e poi ascolti col 440, il 440 ti rompe la bassone. Ho capito. E poi mi approfondisco un po', mi leggo un po' qualcosa. Certo che vai, spende 400 euro per un 440 di tanti anni, spendi qualcosina in più, però c'è un apparato nuovo in garanzia. Ma infatti sono d'accordo con quello, con voi, bisogna fare così. Io non potrò mai più vendere il mio perché con tutti i soldi che ci ho speso non li recupero mai più, capito? E quindi me lo tengo, assolutamente. Me lo tengo. Fra, guarda se è sempre uguale lì, tutto come prima. Ho toccato un pulsante, boh. Non so se ho fatto qualcosa di peggio. Tutto come sempre. Sì, sì, ripeto, qua sei anche troppo forte, per me potresti abbassare la radio, eh. Addirittura, io mi sono stufato di tenere questo microfono in mano, guarda, te lo metto la metà, te lo metto un quarto, così è un quarto, fa, va meglio. Sempre forte, poi quando parli tu e poi parla Alessio, devo stare sempre abbassando e alzando. Minchia, roba da matti, veramente. No, perché ho toccato un tastino e pensavo di essermi spostato di frequenza, aver abbassato la potenza, boh. Se piccite non vedo, però se mi dici che è sempre tutto uguale già va bene, dai. No, sempre a bomba qua, tranquillo. Va bene, che va bene. Un'ultima chiamata al microfono normale per questa radio, per quello che compra, lo stesso attacco. Però preferisco più questo, dai, già va bene. Anche l'altro dovrebbe funzionare bene, ma non Giovanna va. Li mette normalmente a cercare dentro la cassetta e fa casino. Ci rubi le luci. Dove è andato Antonello? Boh, non mi ricordo. Facendo un attimo la Giovanna, 2 minuti. I microfoni a 4 poli fossero tutti uguali, invece no, cambiano le posizioni, le polarità, dai. Ehi, sì, Antonello, vabbè, no, sto scendendo un attimo a sorella. Guarda, io ho 4 microfoni da tavolo, 2 li devo usare con l'adattatore. Mentre gli altri 2 no, però non mi piace la modulazione che hai già sentito, uno più 4 più 5. Mentre lo Fuller e il Tamet 3 devo usare con l'adattatore, con questi baracchini che ho. Con questi baracchini. Quindi cambiano. Microfoni normali ne avrò, dentro la scatola ce ne sono 4 o 5. E tutti sono completamente diversi. Solo quello della RAM 48 va bene qua, la RAM 87, perché più o meno della stessa casa, capite, sempre ala. Come il mio Samurai col Galaxy sono uguali, però questo invece, questo valvolare, l'attacco è uguale, preciso, però cambia qualcosa. Però tu mi stai dicendo l'altro giorno che è una questione solo di posizione, vero? Sì, se tu praticamente c'hai il microfono, quello del microfono, lo spinotto del microfono, quello a 4, che non ha quel coso, quello della radio, scusa, che non ha quell'affare concavo dove si inserisce la direzione obbligatoria del microfono, allora tu lo puoi girare anche al contrario e funziona, perché io ho un adattatore che praticamente non ha quell'affare lì, non ha quello, quindi io inverto o sotto, che cos'è la campana? Inverto o sotto o sopra e mi fa funzionare tutti i tipi di microfono, capite? Sì, ho capito, ho capito. Oppure si potrebbe fare dei canali nel maschio, dei solchi, in modo che lo puoi girare in vari modi. Oppure, come dici tu, con una fresa eliminare quel piolino. Li vendono già pronti questi affari, io non ne ho trovato più. Ne avevo trovato una volta una bancarella della fiera, ma ti parlo di tanti anni fa, perché poi non ci ero più andato. E c'erano questi affari così, capito? Allora avevamo preso proprio un po' di connettori, un po' di maschi, un po' di femmine, c'erano questi adattatori, anche addirittura già pronti, come vendevano gli spezzoni PL, no? Da 30, da 60, da 90, da 120 li facevano, ti puoi cambiare, capito? E li vendevano già pronti, però molti arrivavano a casa e non funzionavano, tutti in corto erano, quindi era una grandissima gagata. Però quegli affari lì a me me ne era rimasto uno e Gigi Volcano aveva fatto l'adattatore, capito? L'adattatore che lo giro praticamente su tutti i microfoni posso usare, perché non c'è quello spazietto obbligatorio. Ho capito, quindi non devi stare lì a saldare niente. La posizione del quattro file è sempre la stessa, devi solo cambiare combinazione e basta, mantenendo sempre i quattro fili in quella posizione. Esattamente, Fra, ma addirittura ti dirò, lo puoi anche ruotare a uno a uno, capito? Lo puoi ruotare a uno a uno, non è che lo puoi girare solo da sotto a sopra, lo puoi ruotare a uno a uno. Tanto danno non ne fai? Assolutamente no, assolutamente no. Tanto guarda, questi microfoni sono sempre da invertire le due polarità, la ricezione e la trasmissione, e lì l'inversione che si fa. E con quel sistema lì praticamente tu li inverti in automatico senza poter, senza fare niente sul microfono, no? Lavora direttamente l'adattatore. C'è un break? E io buonasera a tutti, dai, già del più lungo. Ciao Gianni, ben sentito. Avanti qua. Registrato l'altro break, mi sembra Giulio. Ciao Gianni, buonasera, ben ascoltato. Avanti Giulio, sei tu? Sì, sono io. Ciao Claudio, ciao Gianni, ciao Franco. Poi più che altro, nessun altro. Io sono all'ascolto da 5 minuti e ho sentito solo voi. E adesso Gianni. Vai Gianni. Ehi, ciao Giulio, buonasera. Capa Gianni, ciao Giulio, buona serata. Sì, ci dovete anche in ascolto anche Alice, non so cosa stia facendo. Avanti là. Sì, aspettava Giulio. Avanti Giulio. Ok. Sì, vabbè. Ma appunto io di solito 5 minuti ascolto sempre prima di, siccome sto anche parlando a telefono su WhatsApp con mio fratello. E dunque nel frattempo una chiacchierata qua e una chiacchierata là, anche perché lui è indaffarato, lo sta cucinando. Va bene, dai. Aspetta che controllo a proposito se faccio male, va bene. Vediamo, scusa un attimo. Ah, sei sparito. Hai trovato il segnale. Giulio, sei sparito il segnale, aumenta. Giulio. Il segnale. Sei passato il segnale. Cosa è successo? Sei calato completamente a zero di segnale. Sta funzionando bene qua. Adesso sì, ma sicuramente mi si è toccato il microfono, ha toccato il power, si è andato a zero. No, mi avevo dimenticato l'auto tour, cioè dove si accorda le stazionali. Avevo dimenticato di mollare quello, il tasto era abbassato. Ah, se non molli quello non va. Va bene, allora è tutto a posto. Ok. Va bene. Sì, no, io sono già fatto, sto usando, si chiama bene quello di là. Dovrebbe essere il segnale mio quello, perché sto usando i soliti fatti che uso sempre, eh? Va bene, riprende allora Gianni, dai. Sì, adesso va bene, io adesso non c'è da dire nulla, ma poco qua ci ho assustato, e ti rompi, io li si è staccato il piede, perché stava arrivato Santiago 3 qua. Ok, sì, perché avevo messo l'accordatore, no? Dentro il contenuto per accordare, e realtà vogliamo liberarti tutti e due i tastini, perché bisogna cercare due tastini e invece uno me l'ha rimasto, forse non me ne sono accorto, capito? Per quello, va bene, tutto a posto, meglio così. Avanti Franco. Capa giù. No, qua un po' si è calato rispetto a prima. Quando era zero proprio non è che ti sentivo, loro invece ti ascoltavano, io zero completamente. Adesso invece sei sul 9, prima eri sul 9-10 quando sei entrato per la prima volta. Ah ok, perché forse era così, aspetta. Forse ero così, prima ero così allora. Perché ho passato per nero e dunque tutto si era scombinato qua, capito? Così era. Un attimo, siamo al telefono, ripeti Clap. Sì, lascia stare così, oh Giulio. Va bene. Non ci sono problemi. Ottimo per la truppa, qua si arrivano 9:20 su baracchino, quindi già va bene. Vabbè, ma è troppo forte così, dai. Te lo dire. È da te, Gianni. Ma non c'è 9:25 che come al sud. Non 25, ma 9:30 sempre come al sud. Ok, dai, vabbè, dai, aspetta che passiamo, lui, ecco qua, 10 watt, così va bene, dai, riprendete, vai Claudio. Era grande, 10 watt va bene, anche io tengo sempre così, a 10 watt per 4:40, 10, 15, non di più, non che sia gente là fuori, proprio loro mettono 20 watt, 25, va bene. Così è già. No, stavo parlando di quello adattatore, no? Che c'era prima, la femmina, mi sembra un maschio, se mi ricordo, che praticamente non ha quella serie fissa. Quindi tu quando fai l'adattatore, come quello che ha fatto a me Gigi, lo puoi invertire sotto, sopra, capito? Puoi usare tutti i tipi di microfono. Ma quello con l'acqua o no? L'acqua? Non ho capito già. Sempre dire c'è un microfono che ha l'acqua. A 6, non lo puoi usare, sono con la qua. Ah, beh, devi fare l'adattatore giusto, da 6 a 6, maschio e femmina. No, io ce l'ho a 4, però non c'è quello spazietto obbligatorio, capito, da fare concavo. Quindi tu quando devi usare un microfono, lo puoi girare da sotto a sopra, mettere a 1 a 1 anche, capito, non... E puoi usare tutti i tipi di microfono. Sto facendo memoria, io il Midland, quello blues, quello che ho sempre fermo, che non ho usato, andava un po' bene con le 25 adesso che mi ricordo, però c'è un diverso attacco, dovrei cambiare la tara. Sì, fa un adattatore universale si chiama, li vendeva anche Tonino prima quella ghiera lì, praticamente universale, dove tu lo puoi girare, usare qualsiasi tipo di baracchino, capito? Lo metti nel microfono che hai e siccome non ha, ti ripeto, quello spazio obbligatorio, tu lo puoi girare sotto, sopra, come vuoi, e il microfono funziona su tutti i baracchini, come faccio io. Sì, che ce l'ho, me l'ha fatto Gigi a me. Me l'ha fatto Gigi. E con quello io uso tutti i microfoni che ho. Altrimenti sono tutti diversi. Invece, ad esempio, uno lo metto solo girato sopra. Poi nel panel 3 lo giro sotto sopra. L'altro lo metto 2-2. Funziona sempre il microfono. Lo puoi girare come vuoi quell'adattatore, capito? Perché non è la direzione obbligatoria. Sì, ho capito. Io però quel capo di vita, l'unica cosa che c'è è che c'ha cosa sì, l'attacco a sì, capito? Bisogna come quello scuola. Sì, vabbè. Come ne ha voglia lo fa. Qui è entrato il suo buco. Avanti, porcellino d'India. Come ce l'hai grossa? La voce, non altro. No, non era un rutto, era un verso tipo buonasera a tutti. L'uscita leone, cosa del mazzò, come si dice? La voce grossa, il microfono normale sto usando con la 87 che usa la voce grossa. Il microfono normale che usa. Visto che va bene il microfono normale, usiamo il microfono normale. Avanti Giulio, ciao Marco, comunque buonasera, ben entrato. Sì, un bel po'. forte, fortissimo, però non mi piace, ma che troppo cupo, non mi piace. Ciao Marco, un bel ritratto. Sì, infatti io stavo dialogando in due posti, o Gianni, al telefono e al palazzino, così, così. Così ci passa la serata. Avanti Franco. Capo, scusate, poco fa l'introduzione, sì. Adesso ho perso il più del discorso. Comunque, ciao Marco, ben entrato. Riprendi, Cla. No, io non riesco a seguire tante cose, se non funziona cosa funziona, ma sono quelli che mettono 3, 4 frequenze, eccetera. No, io ne seguo una e basta. No, ma la porta, non riesco a fare tutto. Così mio padre, la buon'anima, quando ascoltava le partite, si metteva le cuffie della radio, si guardava il televisore e poi cala, sembrava carino. E quindi non va bene questo microfono normale, Giulio? No, già va bene Claudio, io intendevo che esci tipo grandi modulatori, mi esci forte, di lusso, la voce mascola, ma in poche parole. Ah, perché abbiamo fatto le prove al microfono di tavola, no? C'è solo il tono più 3 che va bene, però non ci ho posto a tenere tutti i microfoni, molto gli SM20, un casino, allora ho lasciato quello originale, dai, va bene. Gappa, avanti già, riprendi. La voce è piena, come è il grande modulatore, come ci ha detto anche. La voce è piena, forte, bello, col posto. No, è bella, c'è una bella radio, ma diciamo che ci sono radio diverse, da salotto, la cosa, questa che è la radio da mancare. Ah, beh, basta lì, lo abbasso il micchietto, lo metto così, micchietto, non è un problema. Leggibilità apprezzabile, ma per me, per i gusti miei, non ne ha proprio niente, perché è troppo cupa e poi anche nasale, non mi piace, ma però, non ho problemi, io l'ascolto volentieri, ci mancherebbe altro. Avanti Franco. Sì, no, anch'io tutta la sera gli dico di abbassare, che mi sta staccando le orecchie. No, va bene, invece doppio room, il tuo eco invece si può diminuire un po', non so, la potenza oppure che regolazione c'hai sull'eco? Guarda, vedere se sarà così. Le regolazioni, c'è il room e l'eco, guarda, adesso c'è proprio. Per me va meglio così, perché a volte, vabbè sono mezzo sordo, so quello, a volte molte parole non riesco a capirle. Ah, perché sei vicino, siccome è scomposto, quindi quando sei vicino va. No, così va meglio, va molto meglio, eh. Si sente sempre l'eco, però non dà fastidio. Gappa gappa, va bene, sono contento per te. Ciao Fra. Ciao Marco, come stai? Ti direi una balla se dicessi bene. Caspita, per fare 50 metri edicola, poi un caffè, poi alimentari, avevo già caldo in casa senza riscaldamento, in camicia, come mi sono messo la giacca, si mi aveva attaccato questa sudorazione, questa fiacca, no, devo anche andare al medico. No, volevo dire che tra te e Gianni avete delle modulazioni non buone, di più ottime, non c'è K che tenga, non c'è niente, avete una limpidezza di modulazione spaventosa, toccate ferro adesso, non vi voglio mettere occhio. Però non è ferro, mi sposo a toccare a ferro. Se ti sente tua madre ti prende a colpi. Perché? Ma c'è il calore. Perché lo sai chi è il The Voice, no? Ehi, vabbè, no, ma loro proprio sembrano effetto presenza. Cioè non senti né effetto stanza, né effetto rimbombo. c'è la voce, come lei in verticale, uno sta a uno, non so se mi spiego, come si dice per fare, uno sta a uno. E poi volevo chiedere a Fritz, al momento stavo usando il famoso Shure da tavolo col potenziometro rosso. Ecco. Sì, capo, ha registrato il becco. Marco, sì, sempre quello, sempre quello. No, comunque anche tu esci bene, dai, riprendi e fai entrare il break. Gianni, dai, dopodiché sto in bianco che devo tentare di pranzare, figurati. Gianni, vieni avanti, rimango in bianco. Buonasera a tutta la ruota, Gianni Profeta dalla stazione. Buonasera Gianni, Giulio, Franco, Claudio, Marco, chi peni ha più ne metta. Buonasera. Ciao Gianni, piacere anche a te, dai, buonasera anche a te. Avanti, per chi vuoi, visto il consigliato che ha fatto ascolto, scegli quello di voi. Avanti Franco. Ciao Gianni, ti ricordi a Palolo, sì? Adesso sta cambiando pure lui, sta mettendo ciccia, capelli bianchi, già si sta trasformando anche lui. Marco Palolo, salutamo se dovessi vederlo, dai. L'ho visto qualche giorno fa che stava andando, insomma, a finire dei lavori che aveva preso in questi giorni, insomma. Già è abbastanza impegnato. Bene, Meda, buon per lui, sono contento. E niente, dai. Avanti, avanti, Cla. Ciao Gianni, buonasera, ben ascoltato. Ehi, giù, mi era con l'input, mi sono stufato di tenere questo microfono in mano, allora ho spento il baracchino e ho commutato col gemello, col fratello del tuo. E ti ripasso il cambio, così vai per Gianni e il Brofetta, vai. Ok, ciao Gianni, ben entrato. Sì, è bene, certo, tutta un'altra musica questo. Ma non potevi tenere, insomma, andavo bene lo stesso. Ma visto e considerato che siamo fra amici, ho detto qual è la mia opinione su quel microfono. Fortissimo, no forte, fortissimo. Però pochissimo come cosa, come voce non mi piace per niente. Mi avete di piombo. Ah, adesso. E la cera che si fa lunga. Ma questa situazione, va a essere mangiata mentre rispondo. Poi non è stata ne ha una mano. È delicatino, va. Vero qua. No, sai cos'è già? Secondo me no, ancora non è pronto. C'entra anche questo scompenso ormonale, no? Quindi sono già 2-3 giorni o più senza Utirox per la tiroide, che adesso ce l'ho bassa, prima non era bassa, adesso pure quella è scompensata, quindi. E quindi è un po' così, dai. Forse andando a Lourdes risolvo tutto in una volta. Però bisogna crederci, il problema è che bisogna essere credente, se no non funziona il trucco. Aspetta che c'è qualcuno che sta chiamando, mi sembra urgente. Attenzione, Eugenio, se ascolti lo più lungo. Ciao, dai, buonasera. Sono in compagnia di tanti amici, Eugenio, non so se ti ho fatto ascolto, là. Te li faccio venire avanti, Giulio, per i saluti, Eugenio. Ok, ciao Eugenio. Mettiti l'antenna sulla nave, così ci sentiamo meglio. Fatto girare, vai Franco per Eugenio, è Eugenio. No, mi dispiace Giù, non lo sento. Salutatemelo voi, purtroppo devo anche chiudere, quindi vi devo salutare, andiamo al cuore, dai. Una bella serata, una bella chiacchierata. Grazie a tutti, grazie a Claudio, Marco, Dottor Rum, Giulio, Alessio, secondo rientra, me lo salutate anche voi, Gianni, il Profeta ed Eugenio, dai, riprendi Giù. Ok, d'accordo, ciao. grazie per la chiacchierativa, dai, solo che va tutto un po' tardi, ma avremo modo di chiacchierare un po' di più la prossima volta eventualmente. Ci sentiamo, ciao ancora. Vai Gianni per salutare Franco. Se io ti ho parlato, ma un po' che non mi sarà, grazie per il question. Tieniti pronto che tra qualche giorno andremo a farci la maglietta di Freddy. Tieniti libero. Ok, quando volete il numero già ce l'avete, c'è Claudio, ce l'ha sicuramente, c'è anche Giulio. Ok, riprendi ancora. D'accordo, va, allora con QRT e avanti Gianni della stazione, Gianni un profeta. Capa Franco, ben sentito, dai, ci aggiorniamo alle prossime. Per Eugenio, io non lo copio proprio per niente, se Giulio fa la ponte. Salutoni da Gianni Lubrofetta a Sassari, un abbraccione, cambio. Vediamo un po' se lui ti ha sentito. Attenti Eugenio, l'hai sentito a Gianni e anche a Franco da Sassari? Gianni io non lo sento. Ti non sta parlando adesso? Sì che sta parlando, però dove lo correva però. Ah, ecco, ho sentito il beat. Eugenio, se ti sia passato, non so se ti sei spostato di giorno. Sì, ti sia passato ulteriormente, poi se non ti sentiamo. E adesso ci sentiamo appena appena, dai. Claudio, riprendi, dai, vediamo un po' se la sentiamo. Io ho sentito adesso, poco fa sparito. Ciao Eugenio, buonasera, ben ascoltato, dai. Allora io chiamo Gianni, quello della stazione, la profetta, doppio room, Giulio, chiamiamolo doppio room, se no a poc'anzi aveva lanciato Gianni, la profetta, e ha preso Gianni doppio room, quindi uno doppio room e l'altro Gianni, se no non ci capiamo. Marco, vuoi riprendere o stai mangiando? Ti ci mangi i cucciucci o i pipistrelli? No, ancora no. Caspita, ieri da Leone, la mattina ho fatto un bel di commissione in macchina, poi di sera, siamo usciti a che ora? Alle 6, siamo tornati a mezzanotte. E oggi invece, vabbè, non si può avere tutto. No, ti sente Gianni Obroffetta, no? Voglio dire Giammendi. Vai alla stazione e parla. Da vicino alla stazione ti ho detto parla. Ma Gianni sul tetto ha messo l'antenna da macchina, cioè? Sì, sì. Ah, io credevo fosse almeno, non so, un quarto d'onda, credevo fosse un'antenna da tetto, una boomerang, Già si sistema anche lui, come dietro a Gianni si sistema, vero Gianni? No, è un'antenna veicolare, sarà alta 1,70, 1,75, in vetroresina credo, materiale sintetico. L'ho fissata ad un faro, ho visto che funziona bene, per il momento è questa la dotazione. Ti volevo chiedere, ma tu cos'hai, tetto o terrazzo dove puoi passare? Cioè, avresti la possibilità di mettere una cosa, anche una mezz'onda, senza radiali, senza niente, palo basso? KK, sì, è praticamente è calpestabile, cioè ci ha tramato, sì, mi sono agganciato a un tubo grosso che c'è lì, ho messo delle fascette, insomma, va bene così, volendo si può mettere qualcosa di più serio, già c'è la possibilità, è che in questo momento ho altre cose da sbrigare. E a livello di condominio come sono? Ostili, gli indigeni oppure trattabili? No, tutto abbastanza tranquillo, non ci sono problemi, va bene così, niente dai, facciamo girare, avanti doppio room. E vabbè, qui per il momento per la città già va bene con la pena, c'è bene, perlomeno, vabbè, a casa va bene perché siamo vicini, via, dai. Secondo che appena avessi, se metti la tubo 2001 è come la mano, perché io mi ricordo che avevo lo stesso segnale, c'è più punti della mano, ma da sotto casa, aveva lo stesso segnale della mano, quindi immagina su te. K, vabbè, adesso vi ripeto, va bene così, quando arriverà il momento magari facciamo qualche piccolo investimento. Bene Mela, ok dai, che c'è? Ok, avanti Giulio. Ok, piano piano già, non è un problema, figurati. Piano piano che parla bella stazione, per cui già va bene a te. Se ci sentiamo poi magari durante l'estate, a parte l'estate avrà anche migliorato con l'antenna, pertanto si farà sentire anche a livello di propagazione, suppongo così. Così già. Eh no, ma ci sono le antenne già, anziché mettere la, quella che stai dicendo tu, tipo con l'antenna di Marco, va bene lo stesso, non è un problema, è sempre una mezz'onda, mi sembra, e va bene, costa poco, cosa costa? 40 euro mi sembra, poi ce lo dirà Marco quanto costa effettivamente quell'antenna. Marco, quanto costa quell'antenna che hai tu? Allora, la Midland New Energy o Energy 5 ottavi, se la compri da fuori costa 60, poi tra 60 e 65, poi ci metti la spedizione, almeno 20 euro perché fa quel lungo, magari 15, forse 75 te la cavi, certo se la prendi da GBC 90 euro. 90 euro direttamente, ma io ho preferito, poi sai, se manca un bullone, manca un pezzo, manca un radiale, almeno vado a protestare lì. Ed è l'antenna più leggera, la fa anche la Sirio identica. In più la Sirio ti dà dei ridicoli manicotti in plastica che secondo loro dovrebbero isolare gli elementi dello stilo, no? E non passare acqua. Invece io no, l'ho vulcanizzata di brutto e più il nastro isolante sopra, tutti gli elementi, tutte le giunture. Dunque la mezz'onda, oltre che essere più corta, no? Appena più corta, non ha radiali, pesa 2 kg la mezz'onda, 2 kg, cioè 5, la mantova ne pesa 5, sa, poi devi tirantare. Io ho messo un palo da 3,5 metri sul gabbiotto, 1,5 metri di palo e aderente al gabbiotto, dal gabbiotto ne escono miseri 2 metri seppure, niente tiranti, niente di niente. Quando viene il vento è sottile, molto sottile per essere una 5 ottavi, quindi rende, sì, non rende come una 5 ottavi mantova, però resiste più al vento, non ha mai perso radiali, fino adesso tocchiamo ferro, non si è mai piegato lo stilo, insomma. Per chi non vuole radiali e scocciature è la cosa migliore. Poi se i radiali non danno fastidio puoi mettere anche 5 ottavi, perché no? Eugenio, mi copi? Lubrofè, lo senti Eugenio? Adesso arriva 8 qua a me. Esce appena dal rumore di fondo. Ciao Eugenio, ben sentito, come stai? Un abbraccione. Daga te che non ti vedimo. Ciao, ciao. Ehi, dai, per il momento siamo in una fase di stallo, insomma, dobbiamo insomma riorganizzare, perché insomma sono cambiate un po' di cose, quindi per il momento mi sto prendendo una pausa di riflessione, niente, questo è quanto, e tu come stai? Io ho fatto una Kappa, sì OJ, appena possibile, mi ha fatto piacere sentirti, dai, vabbè, facciamo girare, avanti Kla. Un attimo, sono al telefono, vai, ciao OJ, buonasera, ben ascoltato, vai Giulio. Ok, ciao OJ, adesso già ti sento bene, adesso non ci sono problemi. Poc'anzi appunto ti avevo detto di mettere l'antenna sulla nave, così sei stato più in alto e sarei arrivato meglio, ma adesso già ti sento bene, là. Bene, bene, tu fai un gran pedito e te ne affutti, oh, dai, da te. È meglio così, dai, tanto non ti diverti. Vai Gianni, doppio rum. Ehi, ehi, se no, Gianni lungo fretta. Basta che ci faccia una ferma come quella che abbiamo fatto tu, con pochi dite, e esce bene. Come esce bene per noi? Ehi, vi ripeto, adesso le cose rimangono così, insomma, ho mandato una fotografia a Claudio dell'apparato con cui sto uscendo, se lo vedete vi mettete a ridere, per cui per come sono messo va molto bene, direi. Quindi per il momento non mi lamento per niente. Niente, ancora per Eugenio, ma sei in barra mobile o sei in stazione? No, K, ok. Bene Meda, un abbraccio alla tua dolce metà. Bene Meda, ok dai. Per Giulio, come ti sta arrivando giù Giulio? Giulio? Sì, mi ero allontanato un attimo. Quanto ne hanno fatto? Così mi hai chiesto Gianni. K, 1, 2, 3, come sta arrivando? Sempre lo stesso? Sì, quasi 9, sempre lo stesso, quasi 9, 8 e mezzo, là. Prende la testa. Fa radio sempre la solita, va bene così, là. Poi ci sono problemi. Sì, certo, se cambia l'antenna mi arrivi molto meglio, Però va bene, è interessante sentirci pure adesso. Non abbiamo ambizioni di grandi segnali, non ce ne frega niente, a meno che non siamo lì in estate, che parliamo di propagazione, allora è diverso il discorso, ma per l'estate già ci attrezziamo. Kappa, ma mezzo pizzicato, sono cazzo a brividi di freddo e ho le gambe molli, insomma, convinto di avere a... La pellaccia invece mi ha fulminato, come sono uscito dalla doccia. Niente, sono un po' dolorante, quindi ne ho approfittato per mettermi in ascolto e poi vabbè. E poi siamo entrati, dai. Lo deve fare così. Se si cado sotto la doccia, ragazzi, da poi si mette così a prendere freddo, chiaro che ti fa male. Non ti approfittare troppo della gioventù, della giovinezza, perché poi il contro arriva dopo, per cui attenzione sempre. Anch'io facevo certe assate di testa prima, ma adesso non più. Arrivata la mia età non si possono più fare certe assate di testa. Prima di sia con la neve potevo essere... Non è più possibile fare queste cose, da imprudenti. Marco, hai un pranzato, vai, se no ci devi invitare. No, è caldo, è molto caldo. A proposito dell'antenna, ti volevo chiedere Giulia, ma poi avevi risolto il famoso problema della Mantova, quello del... cos'era? Che non faceva la... non era più cortocircuitata, l'avevi poi risolto? Sì, la Mantova è montata tutta, l'ho messa da parte. Sì, e poi anche l'altro giorno l'ho montata tutta quanta per farla vedere a Franco di Sorso, come era lento, perché anche lui ha lo stesso problema, E purtroppo la Mantova fa quel problema lì. La costruiscono per essere cortocircuitata, però avendo questa bobina così, ma non solo la Mantova Turbo, ma anche le altre Mantova. Sì, e funziona, perché uno non se ne rende conto perché funziona, però se uno è pignolo, come ha detto sono io, che la voglio funzionante al 100% per come è nata, e allora tu controlli col test e ti rendi conto che la Mantova non è più cortocircuitata. Perché succede così? È successo anche a Marco KB, per dire, no? E anche fatto l'altro giorno se la stava mettendo a posto, la socca la doveva buttare giù per mettersela a posto, e poi anche addirittura se ne ha comprato un'altra. Non so che cosa ha comprato, credo un assidio, per dire, no? E il difetto della Mantova è quello, la bobina che poi in certo momento non è più in contatto con la massa, ed ecco che perde il fatto di essere cortocircuitato. Però funziona alla grande, non ci sono problemi, però ripeto, se è nata così per quale motivo non deve essere sempre così, e quando non la butti via, ecco. Va bene, dai, avanti Gianni, doppio su. Quello è il difetto della Mantova, perché la Mantova 5 non l'ho fatto, io ce l'ho la Mantova 5, sempre costruita, l'abbiamo misurata con te, è sempre costruita, anche l'ultima volta che l'abbiamo scesa, l'abbiamo misurata ed era costruita. La Mantova Beh certo, l'acqua entra, perché si sa, entra. differenza delle di altre persone che dicevano che il piattello si arrugginiva, ma non è vero, non mi si è arrugginito per niente, il piattello mio è abbastanza lucido e va sempre bene a massa. Il problema di questo è questa bobina che c'è all'interno della calotta, dove appunto a porta di usare l'antenna col vento eccetera, perde la consistenza del contatto, ma perché è collegata in una maniera molto, molto secondo me fatta male, ecco, che come collegamento non è né saldata né niente, c'è un incasso dello spessore del filo, e questo filo è entrato dentro a forza, diciamo, e poi c'è con un cacciavite a taglio va ribattuto con un paio di colpi, così, in modo che, essendo alluminio la cosa, il metallo, come batti con il cacciavite si allarga, allargando si fa contatto sul filo, facendo contatto ed ecco che cosa c'è qui tanto. Però è una cosa che non va bene. Ripeto, l'antenna funziona benissimo, in quanto trasmissione e ricezione non ne ha di problemi, è robustissima, eccetera. Solo questo particolare, che è un particolare che a me mi ha dato fastidio, perché l'ho fatta due volte, si può immaginare, non una volta, due volte. Adesso va bene, non l'ho più rimontata, ma la rimonterò quando mi salta in mente. Adesso sto usando questa da oltre un anno e mezzo, questa autocostruita, e va bene lo stesso, visto considerato che mi sento dappertutto. Va bene, dai, facciamo girare. Avanti Eugenio, ci sei sempre? Sono rientrato, E com'è? Tu come ce l'ha la tecnica? Io mi guardo. Oh yeah! Ma non ci cavavano i corlacchi, oh yeah! Ah, a proposito, già, sai che tempo fa stavo passando nella via sul, no? E c'è proprio uno spazio tra i palazzi per colpa dell'antenna. Ho visto gli uccellacci poggiati sul radiale. Ho detto, mamma mia! Perché poi non è mai successo niente. Però li ho visti poggiati, e quelli come danno la botta a me per volare, il colpo che danno. E purtroppo cosa ci si può fare, a meno che non mi apposti con la cabina. A proposito, poi rilancio Claudio, la stai usando già? Io ho tirato un colpo l'altro giorno, tanto per vedere se funzionava, mi ha fatto scoppiare una lattina piena d'acqua, la lattina della Coca-Cola, ci ha messo la cola aperta proprio di lato. Pensa che gli schizzi mi sono arrivati a 3 metri, mi sono arrivati addosso. No, ultimamente non l'ho usato, ma per il periodo scorso l'ho usato un po' con barattoli, addirittura ci ho messo nel terrato, ho messo un foglio di lamiera grossa, una primitiva, poi ci ho messo due fogli di polistirolo, il tirassegno che praticamente è così in legno, quindi più radici, ce ne sono quelli grossi. È stata passata tutta la casa, è fatta fino alla cosa di lamiera e l'ha messo tutta. E non è che devi tirare molto, perché se ti dà il frutto all'indietro, ti dice che già faccio. A me è successo una volta. Vabbè, riprendi Claudio, dai, poi ne sto ricco. E vabbè, fate girare, però non monopolizzate. Molto bene. Cosa stavo dicendo? Gianni Rubrofetta, tu hai messo un'antenna così, ma un'antenna di macchina sul tetto? KK. Sì, è un'antenna di macchina, l'ho fissata a un grosso tubo che c'era già su il terrazzo. Gli ho messo due fasce, insomma, è abbastanza stabile. Ho capito, vabbè, il tuo segnale è 9 qua più che ultimo. Giulio, riprendi e fai girare. Ok, sì, beh certo, anche con l'antenna di macchina funziona. Anch'io quell'esperimento l'ho fatto altre volte, però poi naturalmente l'ho tenuta pochissimo, ma solo per esperimento, ce l'avevo in un altro palo, ce l'avevo e andava bene. E devo dire che non lo faceva nemmeno TVI, nonostante che era sul tubo dove c'è l'antenna della TV, mia, no? Stesso. Per cui vabbè. Sì, ma oggi il problema dell'antenna non è un problema, l'effetto che uno con pochi piccoli volendo apre il computer e guarda le misure e se la fa in 4-4 senza stare lì a strada e lui e senza spendere un patrimonio. Come ho fatto io, come ha fatto Franco, quello che poco anzi era con noi, e qualche altro sicuramente. E vanno bene, Marco che se vanno bene. Marco, ci sei? Marco. No, avevo capito Franco. Franco, ci sei? Per vedere se c'era ancora Franco, io. Comunque, queste Energy della Midland o della Sirio, no? In realtà, credo che siano antenne cinesi, no? Perché hanno una confezione generica, no? E c'è una scritta in tedesco che reca, cioè c'è una scritta che dice con l'H iniziale Ochantenne, che praticamente è tradotto, vuol dire antenna da base, e sicuramente sono in produzione cinese. Poi la Midland ci mette un piccolo, una figurina, un adesivo, Midland New Energy. E penso che la Sirio faccia così, però non le produce né la Midland né la Sirio. Magari la Sirio produce le ammiraglie fatte in Italia, ma quelle sono più economiche. Comunque vanno, cioè, finché vanno poi. La moto è ferma in campagna, devo andare a recuperarla. È piena di biuvaru. Ne stavo proprio parlando stamattina. Devo decidere cosa farne. Adesso devo recuperare e comprarmi una batteria nuova, dargli una spolverata, mettere un po' di benzina e portarla su. Quindi vediamo cosa fare. Sono cambiate un po' di cose e quindi niente, insomma, ci sto pensando. Per adesso sono un po' in stand by in tutto, dai, diciamo. Avanti, Claudio. Riprendo io, Claudio, evidentemente sta preparando il cane. Sì, va bene. No, la moto in estate è una meraviglia, a me piace moltissimo, anche se io ormai non le guido più moto, però ce l'ho avuta per tantissimi anni, e ne ho avuto anche diverse, per cui, vabbè, non molto grosse, sia ben chiaro, ma a livello di scooter, Lambretta, Vespa, eccetera, eccetera, ne ho avuto diverse. E sono, per conto mio, per me, per i miei gusti, sono le moto migliori, almeno per la città. Poi naturalmente se parliamo di moto potenti, allora altro discorso, ma non me lo valeva a me prendere 20.000 euro a prendere una moto quando ci sono due macchine come quella che ho io. Vabbè, ognuno ha le sue idee chiaramente, ma io la penso in questo modo. Io. Avanti, Eugì. È già una città di moto la scorsa, più piegata, più fare, anche che ci sono tutte rotte. La fine, si vede il strato di massi, e ci possono essere quelli di quello che si perché guidare un scorcerone non è molto civista, è come uno che ci mette le pinne e la maschera esaltato, sono d'accordo. Tu sei troppo esaltato, caro mio, solo che vai una moto conosciuta in tutto il mondo. Tu non hai mai buttato moto, sei troppo giovane. Lascia perdere che tu puoi parlare per quanto riguarda le attrezzi, ma sulle moto lascia. Sì, per navigare una moto potente non la voglio, ma non mi è mai piaciuta, perché non ho mai avuto la mania della velocità. Per me, io, sai come le consideravo io quella moto? Io dicevo sempre, non ne voglio uno certificato di multi. Io ho sempre pensato così, forse perché non mi è mai piaciuto fare le corse, fare le gare, boh. Anche se andavo, quando ero giovane, andavo a fare il gioco a vedere a cosa, c'è un finale, con cani di Lugugio sempre nelle curve di fare il gioco, andavo a vedere. Però io non ci ho mai corso, non ho mai fatto partire in moto io, ho camminato sempre con la testa attaccata al collo, perché è la moto di buoni draculoni, se non sei attento, se fai i disabitoni, io la penso così. Va bene, premesso che un incidente può sempre succedere, magari se ne viene uno addosso, ma quello è tutto un altro discorso. No, andare a cercarselo, per me andare a fare le cose, quello lì è cercarselo l'incidente. Avanti Gianni doppio Runo. Io ho portato la moto più veloce del secolo, il Lama da Mille, te lo ricordi Claudio? La Lama Mille l'ho avuto io, me l'aveva venduto Nino Torre Bravo. Quando ho guidato io il Triumph, il Ducati è molto grosso, è molto grande, Edo non era manco un addo. Lascialo lì a Edo, lascialo lì a lui. Ho le Honda 750 VFR, 650, il 900. 500 e l'ultimo a chilowatt che era il 600. Non è detto che uno, perché c'è uno scooterone, è chiaro che poi vuoi arrivare al riposo, rilassarti e passeggiare, ti compri uno scooterone come il T-Max, che non è un giocattolo da portare. Quindi fai da bravo, tu sei viciato con il California, con il moto da Gojo, di chi si è Rasta, come si chiamano, di Chopper, chi si è moto uscì, tu sei viciato. Di cosa stai parlando, Eugenio? Di cosa stai parlando? Quando portavo le moto io, nato a Porto Torres e guidavo a Porto Torres e tu ancora non hai manco nato. Ma lui è l'Harley? Ehi. Ah, paghiscio, eh. 25, 080. Che uno che fa il tiro così macchio? E chi su chi fa il tiro macchio? Non un scuterone, non una moto. Tutto è fatto. Questo è quello che penso io. Sto parlando di moto, molto a macchio. Rilancia me. Sto l'acceleratore, stop. È uno scuterone, stop. Sarà uno scuterone, ma comunque uno scuterone di che ti soddisfa. Di moto a marcia ne sono stufo. Ne sono stufo e mi sono stufato, capito? Quindi no, non è un problema. Poi stai parlando di moto e di scuteroni, è chiaro che è così. Ma lo fa un paragone che tu hai guidato chissà cosa. A te piacciono quel tipo di moto, a me non piacciono, punto. Però di moto con le marce ne ho guidato anche troppe. Troppe. Ce l'ho ancora, non è che non ce l'ho una moto con le marce, ce l'ho. Non ti preoccupare. Avanti Marcolino Conda, no scusa Giulio, se mi hai chiamato stavo spostando la roba che ho messo in mezzo ai piedi, dicevo la stanza che sto togliendo tutti i baracchini dall'armadio, ancora li stavo mettendo dentro le scatole, riprendi Marco. Sì, no, io già capisco cosa vuole intendere Eugenio, cioè motociclisti più puri, no? Che poi abbiano moto da strada, moto da fuoristrada, enduro, custom, quelli che vivono la moto, proprio che vivono la moto, considerano gli scooter, scooterone una sottocategoria, mi dare moto. Poi naturalmente ai motoraduni nessuno è mai stato discriminato, neanche se andava in scooterone, quello che c'era allora, non, certo non viene discriminato, ci mancherebbe. Però è così, io già ho capito, Gianni mi capirà sicuramente, anche il profeta, no? Già ci siamo, abbiamo capito tutti, cioè è che si tende a fare tutta una mucchiata, cioè un elicottero non può essere un aereo, quindi o è un elicottero o è aereo, bisogna chiamare le cose col giusto nome, cioè c'è la motocicletta e c'è lo scooter, il ciclomotore, quadriciclo, motocarrozzella, ogni cosa bisogna chiamarla col giusto nome, era secondo me, insomma, è quello il discorso, poi ognuno fa i lughi di biasi. Ok? Vabbè, ma le emozioni che ti danno perlomeno sono le stesse, l'aria libera, il vento, i flussi dell'erba, quando passi, eccetera, eccetera. Tutte le stesse cose che sì, c'è solo la velocità e la mania di correre per i motociclisti e basta. A proposito, lo sapete che chi è morto? C'erano tutti i motociclisti l'altro giorno nella chiesa di Don Galvino a Notte Dolce, sì, a Santa Maria di Cristo. Era pieno di motociclisti, di cose di moto, la strada, che tipi di moto c'erano? Dovevano essere qualche motociclista sicuramente. KK, infatti insomma sono stato 2-3 giorni che non, insomma, non riuscivo a realizzare la cosa, insomma, sono quelle cose che ti spiazzano, che ti fanno rimanere, insomma, senza respiro, quindi sono quelle cose un po' che ti fanno barcollare, e non capisci più niente. Insomma, sono quei fulmini a ciel sereno, come si dice, insomma, dai, siamo abituati a dare tutto per scontato, basta un attimo, puff, e poi vedi che, insomma, da un momento all'altro Cioè, mi è dispiaciuto un casino, per carità. No, per doppio room, sì, era uno, un carissimo amico, oltre motociclista, era un DJ, suonava nei locali, insomma, era sempre in giro, una persona bellissima. Poi, un grande uomo. E niente, insomma, dispiaciuto tantissimo, mamma mia. E niente, così è. Avanti, OG. Aspetta, genio, volevo chiudere che c'ho il cane pronto, dai. Ciao ragazzi, vi saluto, grazie delle due chiacchiere, Giulio, Gianni Doppio Rum, Gianni Brofetta, Marco, Eugenio e chiunque fosse in ascolto sul canale 10. La più cordiale, buonasera a tutti, buon proseguo di questo. Io scappo a domani. Avanti Eugenio, a te fai girare, capo. Colui che ha guidato remoto, la mano guida più, vi sono anziano, la matta delle varie, ciao. Ciao a tutti e due, dai, non fare l'identità. Avanti Giulio. Ok, ciao Claudio e ciao Eugenio, alle prossime. Certo, ognuno ha le sue idee e va bene così. Avanti Gianni, non perfetta. Cappa, salutoni a Claudio, salutoni a Eugenio, a presto, molto presto. Buona serata e buon tutto. E niente, vabbè, non è come tutte le cose, sono la motocicletta come la musica, come altre cose, sono molto soggettive, personali e intime, quindi spiegare determinate cose è molto, molto difficile. Quindi insomma, mettersi a cercare di spiegare in 448 determinate passioni, hobby, filosofie di vita, non è così semplice. Mi è sempre piaciuta la motocicletta perché, come la barca, come sa, il deltaplano, l'aereo in generale, sono quei mezzi di trasporto che ti fanno assaporare la libertà, proprio quella viscerale, avere insomma, respirare l'aria, il vento in faccia, insomma, l'emozione della libertà innanzitutto. Poi ognuno la interpreta e la modifica e la vive in propria maniera, in maniera molto, ma molto, ma molto personale. Avanti Marco. Una volta anch'io avrei voluto comprare chissà che cosa, avendo soldi, poi passa la gioventù, passano tutte le fantasie, almeno per quanto mi riguarda. Comunque purtroppo devo dire che anche se avessi un po' la somma, i soldi, detto proprio, e la voglia anche di prendere uno scooter, perché tanto lo userei solo in città, uno scooter medio, niente di grosso, di veloce, ma tipo a piaggio, che abbia ricambi a furia dura, tipo il Beverly, quello un gradino più su del Liberty, come si chiama, il Beverly 300, 350, sa essere dintorni, perché a me mi veniva una tendinite con la frizione, con la mano sinistra, lo sai che ho avuto una tendinite proprio, sei nel traffico, spunti e ti fermi, spunti e ti fermi, non ne potevo più tirare con la frizione. Lo scooter, frizione automatica, accelera e va, premi e tocca il freno e si ferma, è di una comodità estrema. Purtroppo devo dire che non prenderei più una moto con le marce, con la frizione, una moto classica, la moto vera. È così, vabbè, poi ognuno, per carità, mica deve giustificare le proprie scelte, ognuno fa quello che meglio crede opportuno per sé e per l'utilizzo che ne deve fare, poi per carità, mica si deve dare spiegazioni, quindi l'importante è che poi non si invadano i territori altrui, è tutto concesso e permesso, e quindi per carità, la praticità, le esigenze di un individuo lo portano a fare determinate scelte, quindi personalmente la moto sino a qualche anno fa era il mio unico mezzo di trasporto. Ho coniugato la passione con la praticità, però durante l'esistenza le cose cambiano e quindi sono emerse nuove esigenze, nuovi bisogni e mi sono dovuto adattare, quindi questo è quanto. Avanti doppio rum. A che moto qui? Non è ascoltato poco, ma che moto c'ha? Io ho un Kawasaki 1200, un 1200 esteticamente riprende un po' le linee anni 80, doppio ammortizzatore dietro, manubrio largo, insomma, riprende esteticamente le moto anni 80, è una bella motoretta. Sì, no, ma anche a me piace la moto da strada, niente da dire, ultimamente ho sentito tutto, ho preso anche io lo scuterone, abbiamo il 400, ho avuto 150, 400, ho avuto Kiko, ho avuto diversi scooter. Che avevano molto grosse, tipo uno che aveva in lavata e non lo faceva guidare, ci scappavamo le moto, andavamo scala di ciocca e cose, non sono sempre guidato le moto grosse, mi piace, ma purtroppo non me l'ho fatto tutto per me per ricomprarla, e quello diciamo che non mi volevo mettere lì, quindi allora non l'ho mai comprata, dai, per cui sta sempre a comprare dove arrivava. Facciamo entrare Giulio. No, ti ripeto, ho fatto una scelta di praticità e passione, quindi l'ho usata per anni, ci andavo al lavoro, uscivo la domenica, mi portavo la telecamera presso, sono andato a fare i servizi, i centri stradali, quando lavoravo in televisione, cioè insomma, praticamente ero io e la moto, infatti chi mi conosce sa di cosa sto parlando, quindi ero io, era il mio stile di vita, il mio modo di fare, e mi andava bene. Adesso le cose sono un po' cambiate, quindi ci stiamo solo fermando un attimo e capire, insomma, se prima era un mezzo di trasporto che coniugava anche la passione, la vita diventa davanti delle altre necessità, e quindi adesso la moto non è più una priorità, quindi questo è quanto. Poi ognuno, i gusti sono assolutamente sacrosanti da rispettare, il mondo è bello perché è vario. Avanti Giulio. 5 anni più o meno, se puoi immaginare, perché vedete bene che no. La moto ce l'ho avuta io quando ero giovane, ho avuto la Mach 350, sempre quello, la moto che andava intorno ai 180 buoni, e io l'unica volta che l'ho provata è lì davanti alla cementeria di Scala di Gioca, lì sono arrivato a 160, sono arrivato, ma ho fatto un tratto se no di 1-2 chilometri o di più, poi da quel momento ho fatto, boh, non è molto per me, non mi piace più la velocità, e allora per evitare che io potessi correre sono subito andata via e mi sono comprato esattamente una semplice Lambrezza e poi una Vespa, e quella ti posso dire che ho girato tutta la Sardegna con la Vespa, con la Lambretta, perché dove vai con una moto potentissima vai anche con la motoretta, chiamiamola motoretta, una Vespa 175, una Vespa 150, ho avuto una Lambretta 175, anzi una Vespa 200, la GS, e poi ho avuto anche la Vespa GL, invece ne ho avuto di molto. Ho avuto anche motorette tipo Ita, truccatissima, che era un fulmine. Allora, nonostante che era un 48 di cilindrata, era un fulmine. Allora, però io l'ho sempre usata piano, sempre piano, dove andato. Anche perché, sinceramente parlando, ho sempre avuto paura di fare corse tirate così. Va bene, riprendi Gianni Lumbrefetta, già, non mi veniva. Capa, vabbè, forse ci siamo parlati un po' sopra. Sì, ti ripeto, quello che non mi è mai piaciuto, ma non solo nell'ambito motociclistico, è quello di cercare di imporre le proprie scelte e i propri gusti, capito? Questo non mi è mai piaciuto, quindi la moto, le due ruote sono sinonimo di libertà, quindi perché tirarsi la zappa ai piedi. È bellissimo, quindi io ho amici che hanno Vespa, Lambretta, Harley, insomma, ne conosco di qualsiasi estrazione motoristica e va benissimo, la passione quando è genuina e sana è tanto di cappello, quindi va bene così, capito giù. Quindi chapeau come si dice, avanti a più rumo. Sì, ha fatto molto ciclista, ma c'è un incidente quello che ho. No, no, è a quanto pare problemi di salute, non so se è problemi di cuore o qualcos'altro, comunque se n'è andato così, di botto. No, è molto più di infarto da poco a pontone, sono 45 anni, ci è venuto un infarto, l'hanno cercato di rianimare, ma ce l'hanno fatta. Quello che ci aveva lì con la pontone, operarci, io lo conoscevo anche. Io penso che ho anche una canzone che è stata scritta da mio fratello e cantata anche da lui, proprio per uno di questi. Vado in bagno. Da lui, eccetera. Proprio una sera, purtroppo, tremenda per lui, cosa è successo? È successo che in un incidente stradale ha preso la gamba, per dire, e poi col tempo è anche morto. E allora, quando penso io a quella persona soprattutto, ed era uno di quei motociclisti che non era nemmeno una persona giovane, molto giovane, era abbastanza di una certa età, che tra l'altro è il padre dell'amica di mia figlia. E mio fratello gli aveva scritto una canzone e poi l'ha anche cantata, e ogni tanto infatti anche alla radio la trasmetto, per dire, no? Per me la moto è bellissima perché è troppo bella, devo dire che mi ha disimpegnato in una maniera impressionante, l'ho usata anche per anni quando andavo a Sentino a lavorare, quando lavoravo sul principale, andavo tutte l'estate, andavo sempre a Sentino per lavorare, ho fatto mesi di lavoro all'hotel Rocaruia, per dire, no, o a Capofolcone, per dire. Allora in quegli anni la moto chi ce l'aveva era già fortunato, non era semplice avere la moto allora. Oggi invece è più facile, oggi vai, uno con 20.000 euro se la compra tranquillamente, se la paga senza nessuna difficoltà, ma prima non era così, prima era difficile guadagnare i soldi, e oggi si guadagna di più e ci sono sì più esigenze, è vero, però ci sono anche più possibilità di acquisto. E io non, oggi come oggi, essendo giovane, non avrei mai comprato una moto di oggi a quei prezzi. Va bene, dai, ripeto, rispetto a tutti, ci mancherebbe altro, se potete vedere. Non sarei Giulio allora se non rispettassi le persone. Sono nato con quell'educazione, per cui non metto in dubbio i gusti e tantomeno le parole degli altri, ci mancherebbe. Va bene, Marco, ci sei? Marco sta digerendo. Va bene, dai, riprendi Gianni e Lubrefetta. Ok Giulio, la persona che hai citato poco fa la conoscevo non benissimo, ma la conoscevo bene, ho avuto il piacere di fare svariate uscite in moto con lui, una persona di greffa, molto cordiale, alla mano come si dice, uno che la moto la aveva proprio al 100%. Era il periodo che ci fermavamo tutti in un bar in Viale Italia, la domenica mattina, era quel momento storico dove ci si trovava tutti lì e si andava e si usciva praticamente, si partiva la mattina e si tornava la notte. Quindi conosco di chi stai parlando e è stato veramente un piacere fare chilometri e strada con lui, mi sono divertito parecchio. Sì, ma indubbiamente, no, ma perché la passione si diverte, certo, cosa che magari anch'io mi divertivo, però mi era sufficiente uno scooter, non era certamente una moto potente come quelle che ci sono oggi in circolazione, che allora era già una grande fortuna che avevo una moto di genere. Ripeto, io ho avuto la Airmac 350 ed era una moto moto abbastanza potente, dunque era una moto che sviluppava una certa velocità, però io l'ho tenuta pochissimo perché non mi andava, intanto non mi andava mai la moto, a me mi andava sempre meglio, mi è sempre andata anche perché l'aluminio scivo cambiato eccetera, e potevo uscire tranquillamente con la lambretta oppure con la Vespa, invece con la moto è sempre un rischio, devi andare non elegantissimo, ma io ci tenevo. Da giovane, scusate la tosse, io da giovane ci tenevo a vestirmi elegantemente, sai, quando sei giovanotto, sai, per attirare le donne, eccetera, eccetera, tutte queste cose sono anche importanti, oggi magari un po' meno. E allora mi piaceva di più la moto la lambretta oppure la Vespa, perché c'hanno la carenatura e non mi sporca. Ho avuto lo zigolo, anche lo zigolo l'ho avuto, però era una moto non molto buona, non molto potente, ma principalmente io usavo gli scooter, quelli sì che erano le moto che preferivo, senza rinnegare naturalmente le grandi moto, quelle sono moto come si deve, certo, moto da correre in pista, però per conto mio. Vai, già, di doppio giù. E poi quando fanno questi motorali di corro, la fila, lo ci fanno vedere loro là, noi, è bello perché è una comunità, mangiano nei agriturismo, tutti insieme, bevono, fanno, però ci sono anche i rischi, perché quando sei in tanti ci sono sempre i rischi, che uno si è tutti collato, eccetera, eccetera. Sono sempre questi rischi perché qui tirano, specialmente a Mandamosa, lì si sa, no? Si è già mandati in Chagana. E poi sa Gianni che una volta io con la lambretta ho sgocciato da 600, la prima 600, quella che aveva gli sportelli che si apriva davanti, no? Non gli sportelli contro il vento. E da buona fa, ho tirato la 600, ho tirato, perché un amico aveva la 600, gli si era bloccata, forse a buona fa. Beh, tu non ci crederai, io con la lambretta ho tirato su da buona fa la 600. Vabbè, la macchina non era così pesante, ma per dire, no, l'ho portata su, altro che aveva forza anche quella, non è che non ne aveva, per cui, poi io ero innamorato, tu pensa che ad esempio, quando è uscita la Special a Sassari, io avevo subito comprato, la domenica l'hanno presentata, lunedì mattina sono andato, alle 9 del mattino mi ho ordinato la lambretta, la Special, l'ho tenuta alcuni anni e l'ho data nuova l'ho data, per dire, no, e ho comprato la macchina, subito ho comprato 1100D, quando l'ho comprato, anche quello nuovo, me lo ricordo, allora costava 1.050.000 lire, il 1100D, mentre invece la lambretta l'avevo pagata nuova, 224.000 lire, allora, e l'ho data dopo due anni, una cosa del genere, l'ho data alla stessa persona che mi ha venduto la lambretta, cioè qui da Ciuru, in via Giugiattoni, non so se l'hai conosciuto Gianni, forse tu sì, magari Gianni dalla stazione, non penso che l'abbia conosciuto lei, ma aveva venduto il 1100D, perché anche, vendeva anche macchine. Avanti Gianni, il doppio la lambretta mi piaceva un po' meno, mi piaceva molto la Vespa, Primavera, la Vespa SS, faceva la spiccia con le ruote di Primavera, eccetera, eccetera. Oh, faceva molto la Vespa, la Vespa l'ha fatto. C'era un po' di concorrenza tra Vespa e la Vespa in quel periodo, però le Vespa erano sempre di più, quelle che c'erano in giro. Ancora no, che c'è? Infatti, siamo ancora qua, sì. Sì, è vero, c'è una concorrenza tra la Vespa e la lambretta, ma io ho avuto anche la Vespa, sempre quello, per tanti anni. E devo dire che era una gran bella moto, a me piaceva, però era sempre nuova. Comunque la lambretta in salita era più forte della Vespa, a parità di cilindrata, mentre invece come spunto la Vespa era di gran lunga superiore, però la lambretta era anche più robusta, solo che aveva il difetto del cavalletto, si allentava la molla e allora incominciava, ogni tanto bisognava cambiare la molla, se no sentivi questo cigolio sotto la pedala. Va bene, dai, e poi di qua. Ehi, io adesso sono rientrato, c'è un caldo fuori, Già, anch'io l'ho avuta la 125 primavera, ho fatto la Torettola, però era il produttore, già abitavo io, un ragazzo, e poi avevo preso lo Scone 125, e poi chiaramente abbastanza bella macchina, come puoi stare sempre in moto, ogni volta tante moto io, sì, da contare in moto come ti contare in radio, forse. Vabbè, no, la lambetta non piaceva neanche a me, assolutamente. Una moto forse per gente più grande, non lo so. A me piaceva la Vespa, la normale, la spiccia, quella con il faro quadrato, la seconda che era uscita, perché la prima era col faro tondo, e poi la 125 primavera, e poi l'ho fatto il Vespone. E ancora Lucio Freddi il Vespone, ancora lo stanno facendo, molto bello. Però il modello vecchio era più bello, ma già te lo ricordi. E adesso c'è fine di Antiscolo, da parte dietro, lo esponente, la faccia di Antiscolo. Non so se lo stia a raccontare tutto e non ho un stilo di costruttore, non se l'ha comprata, che è per pensione. Si ha comprata più piccola, se la mano, ma l'unica cosa che lui piace è la seta, perché il marrone è l'unico. Vabbè, comunque, Giulio, la Vespa la truccavano in tutte le maniere, quindi spunto e ripresa, ne aveva quanto le pulite, si la truccavano. Non c'era problema, si potevano fare tanti accorgimenti al motore, campana, e questo, quell'altro, si accabinava. Ce n'era una, sacro cuore, di ciolle, che si accabinava in cosa male, si ha messo a faccia facendo frega, vai. Sì, perché potete cambiare il cilindro, mettevi il gruppo Pinasco ed era un demonio. Sì, lo so, tante cose potevi fare, certo, ma anche la lambretta. La lambretta addirittura mettevi i rapporti dell'app, ti puoi immaginare, e poco tiravo. Quando partivo in prima, facevi 500 metri per prima di mettere la seconda, perché tirava in una maniera impressionante. E erano due moto che si toccavano benissimo, ma comunque non era una cosa per me, dai. Non ero di quelle idee io. Avanti Gianni Lubrefetta. Mi avete fatto rituffare negli anni 80, quando abitavo in via Mercato, cioè, già finirono poco di vespini in giro, la maggior parte erano tutti furati, tutti punzonati, ogni tanto ne passava uno e dietro c'erano e c'era la municipale, quei vecchi falconi appresso, delle scene allucinanti, cioè, di tutti i colori, cioè, era il periodo d'oro dei vespini preparati, tutti velocissimi e senza freni, il colmo dei colmi, cioè praticamente fermare un pezzo di lamiera a 120, 130, 140, quelli che ci arrivavano con i freni dietro era praticamente fare i kamikaze, capito? Quindi era, però c'era gente che ci provava, ci tentava, insomma, è stato un boom quel momento storico. Io mi ricordo con la televisione eravamo entrati ai vigili urbani sua, la municipale, via Carlo Felice, per fare, non mi ricordo, delle immagini di repertorio, e praticamente dentro un capannone c'era questa distesa, cioè a perdita d'occhio c'erano vespini tutti in fila, vespini, sì, bravo, ciao, cioè a lampadura, tutta roba sequestrata in quegli anni, capito? Chissà che fine ha fatto. Allora c'è Paperino. Paperino, ne facciamo tante di butte, ma Paperino anche se camminavi piano, però si sentiva un pochino con la marmita rumorosa, si fermava subito, e poco non era svelto mia a prendere il blocchetto in mano per scrivere, e lo so, sì, va bene, comunque. Vabbè, dai ragazzi, mi saluto io, buona serata, dai, alle prossime, a domani, ciao Claudio, Gianni e l'altro Gianni, tutti e due Gianni, dai, salutoni e grazie a tutti per questo, ci sentiamo la prossima, ciao Marco, se sei ancora all'ascolto, suppongo di sì, starai digerendo magari adesso, Marco, se ci sei riprendi tu, se lo comprendi prendi tu poi qua. Sì, no, diciamo che sono proprio abbioccato, dai. Non sto seguendo nemmeno il discorso, stavo guardando roba qui. Vai Claudio, vai tu. Ciao Giù, alla prossima, dai, a domani se Dio vuole. Ci aggiorniamo. Avanti Gianni, posso fare a Giulio. Ok, ben sentito Giulio, dai. Grazie alla chiacchierata. Buona cena e buon proseguo. Niente, mi sa che prendo il microfono al palzo e vado a prendermi qualcosa che ne ho bisogno. Quindi anche io seguo a rotta Giulio e niente. Un salutone a tutti, Claudio che c'è ancora in ascolto, Claudio, doppio room, Marcolino. Ben sentito tutti gli altri e ci si aggiorna prestissimo, ok? Buona serata e buona cena, grazie mille, ciao ciao. Ma chi era Paperino? Un vigile urbano? Che aveva il culo in cui, se lo chiamava Paperino per tre. Li avete copiati i saluti, ragazzi? Sì, a chi è salutato? No, niente, ho visto che forse mi ha parlato sopra Gianni. No, io mi sgancio, saluto tutti, grazie mille per questo e ci sentiamo prestissimo, ok? Buonasera e buona cena, grazie mille. Ciao, ciao, ci sentiamo Gianni. Avanti, Gianni. Ciao Gianni, anche a te, domani se coincide, alle prossime. Io a Sassari sono arrivato che avevo già la macchina, beh, sono arrivato nell'85, quindi avevo già la macchina e ero già anche sposato. Però il mio rivale a Porto Torres erano Gavino Crescio, quando era motociclista, San Giovanni Busia, noto Ugo Betto, e Gigi Gurumbino, buonanima che è morto, no, San Francesco Busia, non Giovanni. San Francesco c'è ancora vivo e Gigi Gurumbino, ok, questi erano i miei tre rivali. Poi c'era aggiunto l'altro, quello di Valledoria, Pier Mario Bozzi, che praticamente era diventato, guidava la moto, però loro non tenevano conto che mio cognato era vigile urbano come loro, quindi è mi bicicchia, io guidavo la moto, trovavo una domenica, era tutto cognato, ci ha rotto le balle con questa moto truccata in piazza, all'altro e fare, mio cognato. Non l'ho visto io, lui mi copriva, non l'ho visto io, cazzo pure tu, cazzo mi sticciavano con mio cognato, capito? E i miei rivali, io c'avevo la Vespa 50 preparata da Mariani, dal signor Mario, con tutti i pezzi pulini, ed era 85-90 come cilindrata, ma faceva più di 100, c'avevo la marmita quella bianca, SS pulini, ma lo sai tanto che aveva sedile lungo, era la specie quadrata ed era sul giallino, me l'avevo fatta verniciare io a Porto Torres, ma la seguiva poi sempre Coso, Cipracco, Pierfranco, tu li hai conosciuti quei vigili urbani, ma lo sai anche gli animali? Ma Francesco Fiori era in piazza, Francesco Fiori quante volte mi metteva la paletta e non mi fermavo, poi si cazzava sempre con mio cognato. Ma quelli ti mettevano a presso con i Guzzi, c'avevano i Guzzi 500 allora, capito? Gigi Gurumbino ha pigliato una strampata in via Principe di Piemonte, invece che andare a noi, ma è strampata che ha pigliato, si è entrato 30 gocce di fara. Ma Colombino farebbe la capita piazzata? Lo zio è fratello del padre, Gigi Colombino è vigile urbano, ecco, è morto adesso, è il padre di Paolo Colombino, lo zio di Cosio, il fratello di Romolo Colombino, il fratello di Cosio, di JR, quello del porto. Sì, sì, ho capito. Lui. E allora sì, ma faccio scoprire una volta che mi voleva far fare la retromarcia per fare passare un altro treno. E io stavo sul marciapiede per farlo passare. No, scendi giù e poi faccio la retromarcia. E sì, la retromarcia non si torna perché ci sono gli altri treni dietro e c'è il mio. C'erano altri che scendevano, allora mi assacca, scendevano gli autotreni, se si incrociavano, non mi passavano i piedi, allora tutti praticamente fatti da una parte, possibilmente ci mettevi su un marciapiede e facendo passare, capito? E lui non voleva, capito? Voleva che te la c'era, ma non ci sono tornata per la marcia, se io non ci te lo metto la mano via fuori, io devo rischiare a te. E allora già la fa niente, ma poi ci mette sul marciapiede. Francesco era più che vice urbano, era extravaganti. Capito? Però quelli che seguivano noi da ragazzi, perché noi volevamo anche tutti, io abitavo in Via Libio ed era una greffa dei detenuti, già l'hai conosciuto Via Libio vecchio, il centro storico vecchio, quindi vera Zorighito, vera Lugasaro, c'era Gaetano 30, c'erano tutti più delinquenti di produttori, già abitavamo lì. Quindi a mantenerci, anche perché giocavamo a pallone, facevamo vetri, facevamo macchine, facevamo di tutto, capito? E quindi era a mantenerci. L'unica cosa che poi mio cognato aveva vinto il concorso vigile urbano, perché lavoravo alla Girola, aveva vinto il concorso vigile urbano, quindi mamma si cazzava, dice ci fa rimpiazza, lo farò ma con una moto, se no tenevo il biglietto, e a tutti i già prendo lo stesso la moto io. Ed mi inviava la coppia delle chiavi del garage e io me ne avevo già fatto 7-8 tutte nascoste, quindi la toglievo senza mettere in moto, la mettevo in moto giù in Via Libio e da manco già via che ero uscito in moto, già torno subito, quindi la fregavo sempre. Ed era un casinista, pazzo. E così quando ho iniziato a avere le altre moto, pure sempre più grosse, quando avevo comprato la Pio, il Kawasaki Z400 che era appena uscito, ma avevo sequestrato proprio i vigili urbani a Porto Torres, perché in Piazza Colombo, Federico Marco, gli accelerati, ho sollevato la moto, l'ho fatta camminare per una decina di metri a una ruota, non ho visto i vigili urbani, mi hanno fermato, allora c'era Bugia, c'era Domenico Mozita in piazza, mi hanno fermato, presa la moto, certo volevano messa già, ti ricordi quel portone grande della prefettura vecchia che c'era adesso dove c'è il comune? Lì l'avevano messa, lì dentro. Sì, ma l'hanno sequestrata. L'hanno sequestrata per, non so che cosa, ma avevo fatto un verbale, dunque. Il sindaco c'era di Annibale Francesconi, sono andato a mamma e tu mi hanno imbigliato il vigile urbano, la moto a Tony Booth, dico come mai, così, ma pure lui, ha telefonato al comandante, che il comandante allora era Nasi, il vice comandante era Calvia, che era un maresciallo di Ghissi, così, e il brigadiere era Chessa, se ti ricordi, Chessa, capito? Ha telefonato e neanche un giorno l'hanno tenuta, ma l'hanno restituita la moto. Sì, che ci ha fatto un corso. Non capo perché. Ma poi ti ha interessato che ti abbia fatto un mazzo. No, io ho avuto anche il 96, quello proprio dalla fabbrica, che mi hanno detto ammazzato, non so se tu le conosci. La mamma 96, da dove primavera, eccetera, eccetera. Sì, io salivo a Sassari a prendere la mia moglie con il 125 primavera, poi ho preso un Vespone, dopo il Vespone avevo preso proprio lo Z400 da Pio, capito? In Viale Umberto. E ho tirato così sempre con le volte, ho avuto il Morini 350, Enduro, poi il Transalp ne ho avuto tre, 2600 e 1750, sempre Enduro. Ce l'avevamo io e Marco Secchi, quindi abbiamo aggiudicato le moto. Una l'ho venduta 3 anni fa di Transalp, quello grande, il 650 però, proprio a Omar, nuova, mi ha valato 5.000 euro. Allora, io soldi ne voglio, procurami il T-Max. Infatti lì mi avevo comprato il T-Max, mi aveva trovato un T-Max usato, nuovo, di un uomo anziano. Capito? Proprio perché la moto era troppo pesante, alta, non mi piaceva, non mi divertivo, quindi mi avevo preso il T-Max e poi se l'aveva preso Franco. Capito? Quindi già ne abbiamo fatto dei casini, però a bei tempi si poteva fare già, non vera casco, di reba, all'orci, fazzoletto legato al collo, fatto a triangolo, barimuchini, a tipo bandito, vamos! C'era più il senso della libertà da casco, la bestecca. Era quello con i capelli al vento. I capelli al vento. Erano bei tempi veramente. Devo avere anche delle foto con perché stavamo poi lì allo Scuglio Lungo, dove abita Erika Fiori, che il padre era ormeggiatore, già lo conosce Eugenio, la sua pensione. Erika Fiori, tutto, cicciolava fuori. Metto di via in piazza, non gira il moto, non fa, io, tu già mi fai, e vai, aio, a balai, e tu va. Mi ricordi, quando avevo la moto, anch'io mi ricordi, quando avevo fatto in greba, ma roba di 20 moto al mare, con quegli ombrellini piccoli, cazzi, i due moto, e allora i due non si poteva andare. Se si fermavano, erano tutti, eppure rischiavano lo stesso. Tutti in greba, e c'è un 97 allora. Poi ho dovuto uscire la viaggio, prima del 96 ho potuto uscire la viaggio, quello però con le cerchi a raggi, se l'altro le cerchi a raggi. Ho avuto sì, io ho avuto un po' che non ho avuto proprio 10 di moto. E piccolo è anch'io, poi grande un 7, un 5-6, quando sono arrivato a Sassari. Sono arrivato, c'avevo le data 400, poi l'avevo venduto, avevo preso un'altra moto, non mi ricordo, poi vabbè, da grande, l'Hornet, il modello vecchio, il modello nuovo, avevo il VFR 750 che mi sembra era bianco, uscivo continuo, in, tutto in greppa, e bei tempi erano già, bei tempi, però ti ripeto, adesso la moto non è più... Non si può più andare come prima, devi essere anche ben attrezzato, devi seguire tutte le normative. A me lo sai che l'altra volta io sono uscito dove c'ho due caschi, quello integrale, bello, grande, eccetera, che uso con la moto più grande. L'altro giorno sono uscito, ero in fretta, mi ho lasciato il casco su, l'altro adesso prendo la moto grande. E dalla sella dello scooter ho preso quello, non è tanto a scovella, però non è omologato, là c'è la visierina piccolina. Ma tu sai che mi sono affiancati via Roma i motociclisti vigili urbani, mi hanno detto, lo sai lì quel casco non lo può mettere. Ho detto la verità, tu mi avete scusato, c'ho l'altro a casa, sono uscito a fare una commissione urgente, ho preso questo che uso con lo scooter. Mi ha detto no, che non succeda mai più, perché la prossima volta le ritiriamo il libretto della moto. Ehi, ci deve essere che Marco c'è, io ce l'avevo con Marco c'è. Ma il DGM? Ehi, ti controllo anche che abbia il marchio c'è. Sì, ma il mio marchio c'è, Gianni. Praticamente non sono andato a prendere una certa velocità per casa, perché per lo scooter è una velocità, per la motogrossa è una normale, fatto direttamente. Infatti così mi ha detto, però gli ho detto la verità, tra l'altro due vigili nuovi che conosco di vita, perché di vecchi ce ne sono pochi, no? Ho detto guardi, non pensi che sia, no, per quello, però se deve usare questa moto vada e si cambi il casco. Va bene, adesso vado, adesso anche a casa l'ho lasciata e via, avevo finito per la commissione, capito? E in banca, io quando vado in banca a Piazza Italia, perché vado alla sede, devo andare per forza in moto, e qui sono andato in moto, poi sono salito via a Roma, piano piano, e questo è via da Rido, ma che accorto me ne ero io. No, si sono affiancati e questo mi ha, si è sollevato la visiera. Secondo lei il casco che sta usando è omologato? Siccome stava camminando, detto, aspetti, si fermi prima che mi tocco il collo, perché ho scalato, ero in prima, va a vedere un chicco, e ho questa cagina, ci ho trovato il via Roma. Si è fermato vicino a Banco di Sardegna e mi ha detto questa cosa. Ecco, secondo me sì, è omologato, guardi, è una norma tu sì, ma non va bene per questa volta, va bene la visiera e il doppio aggancio. Infatti l'altro c'è la visiera e il doppio aggancio. Spero, va a bucare, io ti lascio da che tratta, io sto parlando qui, abbiamo ce l'ha metà. Ti saluto, dai, che vorrà presentare, se si fa tardi, guardo le ieri. Ciao Gianni, a domani, dai, stammi bene, buon tutto alle prossime. Marco. Ciao Gianni, dai, buona passeggiata col cane, buona serata. Sì, anch'io in realtà o in città o in estate usavo il DGM, me la furti assai, la fortuna è che non me l'ho beccato. Però se andavo fuori città usavo l'escamotage, mi portavo appresso, con la scusa dell'eventuale passeggero, il casco attaccato alla moto, no al gancio a fianco alla sella, il casco Shoei, quello omologato, anche se jet, no? Omologato motocicli, però aperto essenzialmente, no? nel caso mi avessero, che ne so, a Platamona detto roba, avrei trovato la scusa. Guarda, mi stavo spostando da un lido all'altro, mi metto quello omologato, però poi l'ho abbandonato con la scodella perché era proprio diventato fuori legge, sarebbe stata multa sicura, però è stata la più comodo, più leggero. Certo, in caso di impatto anche laterale non proteggeva, era una calottina, era, dai. Guarda, io ho un amico veramente, abitava qua, siamo arrivati assieme nell'87, è andato via una decina di anni fa da qua, era sopra di me. Postino Luigi Sano, non so se l'hai sentito, mi ha parlato anche il Vigliolina, dai tre, perché questa rotonda di Predaneta sta diventando una tomba. E uscendo dal lavoro alle 8 di sera, perché lui c'ha la sede lì a Predaneta, che vuole consegnare la moto di servizio, e tutto, ha preso la moto sua, un Burgman 400, e non ha visto praticamente il cordolo di questo cazzo di rotonda, è volato, è caduto, gli si è sganciato il casco, forse non ce l'aveva, chi dice che non ce l'aveva neanche la giacca, comunque ha fatto un volo di 20 metri, è caduto a terra appeso morto, sbattendo la testa, spaccato la testa in due, c'era costole fratturate, ed è più di un mese in coma, non si sa se ce la fa, capito? Il casco è molto importante il casco, bisogna stare attenti, bisogna legarlo bene, bisogna avere dei caschi protettivi, è inutile stare lì a comprare caschi in piazzetta, a città mercato, qui no, il casco l'ha comprato nella concessionaria dove tu compri la moto, l'ho fatto io, c'è un casco, la moto grande costa 235 euro, quello della moto piccola e lo scooter l'ho pagato, mi pare 95-100 euro forse da Omar, però non l'ho comprato in piazzetta. È un casco a norma cieca, però non puoi usare con la velocità di una moto superiore, capito? Perché è pericoloso. Bisogna stare attenti, Marco. Sì. E poi ho visto, detto tra noi, io ho detto del casco a scodella, però io quando nel 90 ho preso la prima moto mia, io ho usato solo il sci, che non era mio, avevo preso un super ciclone, ma ero ragazzino ancora, insomma, oddio, non tanto ragazzino, in città ancora, dipende dall'umore. Quando andavo fuori città, anche se non era obbligatorio, io me lo mettevo il casco, ho detto non c'è mai che mi tapponino, così come io mettevo le cinture anche quando non erano obbligatorie, io piuttosto che uscirci dal vetro anteriore preferivo molto di più tenermi la cintura. Poi da quando è diventata obbligatoria serve sia per la sicurezza sia a evitare le multe, detto tra noi, per evitare le multe, soprattutto in città. In città, se a Passo Duomo va in città, vabbè. E a me piacevano quelle moto stesso. Io ho avuto la Z250 Kawasaki, poi la Honda 400 del 77, la 400 Ford, e mi piacevano proprio quelle moto lì, fine 70, inizio 80, e quelle modelle non mi piacciono tanto, mi piaceva il design retro. Sto uscendo, sì? Sì, scusa, che c'è un cane qua, stavo pulendo, ma tutto babba. Ehi, però... fino a quando c'è uno scooterino 50, ma anche con lo scooterino 50 devi avere un casco omologato che ti protegga, perché anche se carico con uno scooter piccolino il danno può essere grosso, capito? Vabbè, che ore sono? Io le 8:25, dai, ti saluto Marco, adesso spengo veramente tutto, dai, vado a guardare un po' di TV e poi cenare. Ci sentiamo domani, ok? Comunque io ho conosciuto, cioè nel 90 non avevi l'obbligo di casco, non esisteva la targa sul cinquantino, non esisteva l'assicurazione obbligatoria, era come una bici, potevi portarla come e quando volevi. Poi hanno cominciato le assicurazioni, che sono salite vertiginosamente, obbligo di casco, già hai capito, no? Targa, assicurazione, casco, è finita, e vabbè, un po' è giusto, d'altronde se no, Vabbè Claudio, dai, sentiamo, che non mi è piaciuta la serata, non mi sono sentito un granché oggi, dai. Mi rifarò domani, ciao, buonasera. Sì, vabbè, perché che già te l'hai fatta, beh, con l'umore sale e scende, a futtermi. Ci aggiorniamo domani, Marco, ciao. Ciao.